notte. Runtime Radio, la talk radio geek, vi dà il benvenuto. Runtime Radio presenta Quando eravamo il futuro. Un programma antologico, monodirezionale e spazio-temporalmente dislocato a cura di Carlo Sant'Agostino, Roberto Tomaiuolo, Davide Gatti e Simone Pizzi. E benvenuti qui su Runtime Radio, come al solito ogni giovedì alle 21.30, anche se abbiamo iniziato un minuto in anticipo, ma tanto voi sul vostro player ve ne accorgerete, insomma, come se fossimo puntuali, perché tanto arriviamo un po' in ritardo rispetto a quello che è il nostro tempo. Quindi noi siamo il passato di voi o voi siete il futuro di noi, e non sappiamo bene come funziona, ma questo è Quando eravamo futuro. www.runtimeradio.it, vi ricordo insomma che potete ascoltarci tramite il nostro sito, ma se ci state ascoltando sicuramente già lo sapete. Vi dico in anticipo che se andate sul sito e cliccate su Runtime Anch'io potete anche contribuire a quelli che sono tutti quanti i nostri progetti, soprattutto adesso che è Natale, e con una donazione una tantum su PayPal oppure Patreon per donazioni ricorrenti. E soprattutto questa è la penultima puntata, penso, di questo 2021, meraviglioso anno che ci ha tenuto compagnia per un anno. Ma con me in questa puntata di Quando eravamo futuro c'è Carlo Sant'Agostino. Hai ragione, ciao. Non ti avevo smutato. Carlo Sant'Agostino. Buonasera a tutti. Buonasera, sì, sì, tutti. Buonasera. Come sta? Sta bene? Buonasera. Mi diciamo dicono che è stanco. Siamo quasi alla fine della settimana e in questi giorni, come è notorio che sia, tutti vogliono tutto, quindi il lavoro si quintuplica, perché il mese di dicembre è lungo la metà degli altri mesi e devi fare il doppio. Hai ragione, infatti notorious diceva qualcuno proprio in merito a questo. Davide Gatti. Buonasera a tutti, vale lo stesso discorso anche per me, direi. E difatti sono giorni di fuoco dove non mi si sente, non mi si vede, perché in ufficio mi stanno martellando, anche perché noi abbiamo anche l'inventario quest'anno. Ma guarda, ci sono alcune circostanze esistenziali che quando non ci si vede, non ci si sente, è anche meglio, però dipende insomma dalle situazioni. Ricordate il canale Davide Gatti Survival Hacking, lo trovate su YouTube, iscrivetevi, attivate la campanella, likeate tutti i video, condivideteli, aiutatelo a crescere, perché ci deve pagare la cena di Natale, chiaramente, ma insomma questi sono dettagli. Roberto Tomaiuolo. Buonasera, dottor Anche detto Pizzi, l'immigrato, anche detto l'immigrato, giustamente, prego, scusi. Beh, ormai sì, no, prego dottore, sì. Più che altro io sono ormai, non si capisce più niente fra test, mica test, vaccini, quindi sono sparso per l'Europa, forse tornerò a casa, vedremo cosa succede, cosa sarà di me. Beh, dall'altra settimana eri rimasto nel buffer del teletrasporto, quindi eri in una situazione di transito, diciamo, quantistico, e non potevi ovviamente partecipare alla trasmissione. Parliamo di subbudio questa sera, no, non è vero, parliamo di una cosa diversa, insomma no. Parliamo di una cosa che è attinente a Quando eravamo futuro, perché di televisione ne abbiamo già parlato, ma perché è speciale questa puntata? È speciale perché per la prima volta in assoluto di questo programma abbiamo un ospite, anche se poi dopo in realtà non è un ospite perché è parte integrante di Runtime Radio, la radio geek, Alex Raccuglia. Ciao a tutti, buonasera, ciao. Ma dove la trovo io tutta questa energia, questa enfasi? Che ho fatto una trasmissione anche un'ora fa e ho fatto la trasmissione anche questa mattina alle 7. Insomma, voglio dire, ragazzi. Ti droghi semplicemente. Esatto, ci devi far sapere cosa usi, esatto. La droga, esatto. Comunque hai sentito che hai detto Runtime Radio e non Runtime Radio? Ma io lo so che dico Runtime Radio, però io dico anche Runtime Radio, a seconda della situazione, cioè se devo fare lo speaker figo un po' WhatsApp America, dico Runtime Radios. Ok. Il può anche dire Runtime Radio. Esatto, anche se poi il Runtime Radios l'ho preso da Alex Raccuglia, che lui faceva queste scivolate così a volte, insomma, giocosamente. Allora, Alex, perché sei qui tra di noi? È una cosa importante. Perché volevo alzare l'asticella di questo programma. Giustamente. Beh, allora tu vieni ad alzare l'asticella di questo programma per parlare di una cosa che è stata l'inizio della fine. Cioè, in realtà... Sì, assolutamente. In realtà è stata, era già la fine, solo che non lo sapevamo. E come... Nessuno lo sapeva. Come ho detto poco fa nella trasmissione che ho fatto appunto dalle 8 alle 8:30, è come Okuto, no? Cioè, come Kenny il guerriero, no? Cioè, Kenny il guerriero ti tocca, tu sei morto, ma ancora non lo sai che sei morto, perché devi ancora esplodere. Ma sei morto, di fatto, no? Giustamente. Alex. Sì, sì. Ah, era per me, pensavo che fosse una riflessione, non c'era una domanda. Guarda, ti metto questo così dici di che cosa parliamo, che ancora non abbiamo detto, insomma, no? Così, a sbafo, no? Che cosa vi evoca? Che roba trash. Che cosa vi evoca tutto questo? Io poi ho già delle domande, in realtà. Mi fa piacere. Ho tante domande. E vabbè, considerando. Allora, che... questa canzone che state ascoltando, ve lo dico perché mi sono preparato, è Saxophone for Me. Eseguita da Roberto Negri, che però non era la sigla del programma della prima stagione, ma della seconda stagione. Stiamo parlando ovviamente di quel capolavoro assoluto che è stato un momento di rottura nella nostra vita, nella vita di questo paese a tre colori, che è stato Drive-In, che esce per la prima volta, ve lo dico il 4 ottobre del 1983, inizialmente trasmesso il martedì, poi dopo diventa veramente il programma più di successo probabilmente di Italia 1 di quel periodo, e di conseguenza viene shiftato bellamente sulla domenica. E credo più di successo della televisione italiana in generale di quel periodo, non solo di Italia 1. No, in realtà guardando bene i dati, il programma raggiunse come share gli 8 milioni di spettatori, che comunque sì, un cifrone. Però comunque credo che in quel periodo i vari fantastici, cioè lo zoccolo duro di Rai 1 teneva botta, diciamo. Allora, faccio una piccola prefazione, nel senso, quando questo programma è iniziato, io essenzialmente ogni volta che ascolto una puntata vengo trascinato modello Ratatouille, quando avevo dai 10 ai 20 anni, mettiamo questo tipo di ordine di grandezza, perché insomma parlate degli anni 70 e degli anni 80, che sono stati gli anni della mia, nel bene e nel male, della mia formazione, anche della formazione, certo, di tutti, certo. E nel 1983 io avevo 9 anni, devo essere sincero, Drive-In è stata una cosa, l'ho capito dopo che mi ha influenzato, magari non mi ha influenzato, però è stato un momento di grande piacere, apprezzavo tantissimo Drive-In, lo trovo veramente molto, molto più divertente di tutte le altre trasmissioni, probabilmente avevo l'età giusta per apprezzare questo tipo di comicità, per cui diciamo che quando questo programma è iniziato ho detto speriamo che parli di Drive-In, siccome siete dei quattro rompiscatole non l'avete fatto, ho detto vabbè, allora vengo qui io pesantemente a parlare di Drive-In e dell'influenza che ha avuto non soltanto nella televisione ma anche, come dirà il buon Pizzi, nella vita sociopolitica di questa nazione, di questa grande nazione. Beh, soprattutto fa contente le persone come Tomaiuolo, perché finalmente tutti possono parlare di Milano, ma la prima edizione fu girata a Roma. Addirittura, esatto. Ah, grande, sì. Non lo sapevo. Però la realtà di questa dicotomia è che è stato un programma di rottura, perché per la prima volta gli autori erano praticamente tutti di qui. Dico di qui perché del nord. Del e nord. Anche i comici, la maggior parte di questi comici era sconosciuta, sì, ai più. Ed erano tutte del nord, per cui per la prima volta c'è stata una trasmissione in cui la componente comica non era prettamente romana o napoletana, perché erano gli unici due dialetti che si ascoltavano, se non la parlata in dizione sulla Rai, e invece qui sono arrivati questo tipo di comici, questo tipo di comicità particolare. Beh, allora, dal punto di vista storico, però, prima di Drive-In, con la comicità milanese in televisione Rai c'è stata pesantemente negli anni 70, con Cocchi e Renato, con Pozzetto, con per non parlare dei Liguri, con quindi sì, non però, è detto però quello in che generale, era solamente in generale, però è solamente vero che il fatto che comunque tendenzialmente quello che diciamo noi conoscevamo dal punto di vista cinematografico, forse ancora di più rispetto a quanto nella televisione, era ovviamente cioè determinati dialetti erano molto molto meno usati, diciamo così. Secondo me Drive-In in questa maniera spezza completamente questa questione, cioè porta proprio... Io non so, io avevo 13 anni, però devo dirti la verità che il problema, per quello che mi ricordo io, non l'ho vissuto come una cosa dialettare o del fatto che fosse del nord o che si sentissero i dialetti del nord, anche perché per quello che mi ricordo io Drive-In erano comici del nord ma parlavano in italiano, o almeno non sì, c'erano cose dialettali. In realtà questa cosa qua è venuta fuori da parte della critica, perché era un programma che era il programma di Fininvest, di conseguenza era il programma dell'azienda di Milano che si contrapponeva all'azienda tra virgolette statale di Roma, cioè nel senso era si sanciva la nascita della televisione commerciale che arrivava da qui, cioè il biscione è roba nostra, per cui essenzialmente la critica diceva quelli sono gli altri, cioè quelli che da Roma dicevano non è più roba nostra. È un'ipocrisia, perché allora è vero che quasi tutti i comici erano, tranne Pozzetto che Cocchi e Renato abbiamo detto, erano di altre regioni, però quasi tutti si esibivano comunque a Milano, al Derby, tanto per dire un posto, compreso Massimo Troisi, la Smorfia, moltissimi sono nati lì, questi erano un po' meno noti sicuramente, però... No, però io sono più d'accordo con quello che ha detto Alex, nel senso che giustamente come dice Alex era un po' la critica che diceva questa è quella di Milano, sì, della Fininvest, e il resto è quello di Roma, ma in realtà i comici erano miscelati, anche perché mi ricordo che comunque anche al Drive-In è vero che c'era la gran parte dei comici che erano di zona nord, nord-ovest tra Torino, Milano eccetera, ma c'erano anche comici di giù, io mi ricordo i 3-3, esatto, ma c'era anche qualcun altro che adesso mi sfugge. No, c'era quello che faceva il calabrese che andava alla Bocconi, no? C'era quello lì che... Bastano. Quello il 18 rifiuto, là, quello... Vabbè, no, sì, quello era 18 rifiuto, non era... Bastano. Ah, era Bastano, sì. Comunque, guardate, se posso dire una cosa, poi... Scusa, poi dopo passo a Davide, facciamo anche il giro pure con Roberto, che poi l'abbiamo un po' tranciato in maniera un po' brutale. Diciamo che però, una cosa io la dico, al di là del discorso della critica che dice Alex, la vedo dal punto di vista... E qui, questa è una cosa che l'abbiamo rimarcata tante volte, quando eravamo Futuro, in questa separazione dell'Italia, no? Cioè una visione, non visione, anche un disabitudine all'ascolto di determinati suoni, sonorità e via dicendo. Quindi noi a Roma, quando vedevamo Drive-In, il giorno dopo per noi faceva strano sentire determinati accenti, determinate cose, e quindi il gioco era riprodurre, no, quei suoni che erano esotici per noi, no, a un certo punto di vista, perché eravamo abituati a tutt'altro, no? Quindi sentire il come dicevate voi, magari il comico che parlava sì in italiano ma parlava con accento, cioè noi tante volte con Luca Casciola, Alex non so se ti ricordi, prendevamo per culo le pubblicità fatte da Fininvest in quell'epoca, no? Dove c'erano questi bambini che parlavano con accento terrificante, no? Cioè, alla Marandena, capito? Cioè, che a noi ci faceva ride, no? Nel senso, magari per uno di Milano ci faceva meno caso, ecco, diciamo così, questo volevo dire. Sì, sì. No, diciamo che a noi faceva ridere il contrario quando c'era l'accento. Considera, Simone, io te l'ho sempre detto, voi di Roma... No, cioè avete una visione romacentrica dell'Italia, cioè nel senso, per voi c'è Roma e il resto dell'Italia come se fosse una provincia, il resto dell'Italia invece vede Roma come una cosa a sé stante. Qui Roberto Tomaiolo sicuramente mi darà ragione conoscendolo. Sì, ma è così, ho ragione anch'io comunque. È così, è vero. Ma il motivo è anche, te lo ripeto, è che Milano nel bene e nel male, perché c'era o meno, comunque è una città internazionale, ma anche, come vogliamo dire, interregionale. Al Derby sono nati Gaber sicuramente e altri, ma anche Abatantuono, anche Califano, nati o comunque hanno avuto molto successo, Giorgio Faletti, persino Funari, era al derby a Milano, Gino e Michele, una valanga di gente, i gatti di Vicolo Miracoli, quindi almeno per me, come io vivevo queste cose, era già un miscuglio di dialetti, forse i romani un po' meno, però nella mia infanzia erano calabresi, siciliani, napoletani come me e di altre cose, per cui non ho mai vissuto tanto questa divisione in questi termini. È certo vero che alla fine Invest alla fine è attratto da quelli con cui avevi contratti, ovviamente, e quindi molti di quelli che già comunque si conoscevano, alcuni poco noti, e questo secondo me è stato un merito di questo programma. Alla fine non ha necessariamente ripreso gli attori comici che comunque già c'erano, mi viene in mente, non so, Non Stop, perché se lo ricordo, il programma della Rai, sì, certo. che era fantastico, e infatti deve molto Drive-In a Non Stop come struttura del programma. Comunque andiamo avanti, sennò. Ah, sì, no, volevo solo dire che se ci fate caso, se ci pensate, molti di questi comici che sono magari del nord, lombardi, eccetera, nel loro personaggio comico spesso imitavano invece un calabrese, un siciliano, un napoletano, cioè non, alcuni sì, facevano la parte del lombardo, se vogliamo, però molti, come personaggio famoso comico che noi conosciamo, imitavano sempre qualcuno che non era del posto in cui era, e se, ce ne sono molti. Ronzo. Ma sì, ma gli stessi personaggi che sì, di Drive-In. Poi i personaggi che ci arriviamo anche. Tra l'altro, io, Davide, sono d'accordo con te. Poi ritorno un attimo da Alex, così facciamo sentire anche la sigla, quella origine, nel senso ufficiale. Quella prima. In realtà, e forse su questo sono per la prima volta d'accordo con Roberto, che chiaramente Roma era una città molto più romanizzata. Con le lacrime. Più romanizzata da un certo punto di vista, no? Mentre invece Milano era una città più globalizzata, perché chiaramente tutto il fenomeno dell'industrializzazione, quindi l'immigrazione, i spostamenti, i flussi dal sud al nord, quindi già a Milano secondo me già si parlavano molti più dialetti di quanto se ne parlavano a Roma nel 1980, chiaramente, no? Quindi questo è, sì, secondo me, ecco, per noi ci mostrava un'Italia che non conoscevamo, no? Ovviamente noi ragazzini in particolare, però sicuramente anche la gente comune, no? Perché come dicevamo, quando andavamo in vacanza conoscevamo l'amico De Segrate e per noi il modo in cui parlava per lui serviva un attimo di ambientamento, no? Proprio perché comunque il linguaggio era diverso, il modo di parlare era diverso, tante cose, no? E quindi insomma il bello di quell'epoca in cui non c'era appunto questo fenomeno di globalizzazione era proprio il fatto di scoprire, no? E Drive-In ci ha fatto scoprire tanto, no? Da questo punto di vista. Torniamo da Alex che lui magari voleva un percorso e noi abbiamo sì, no, ma in realtà sono stato raggiunto dal mio ospite, cioè il mio cane, che adesso mia moglie me l'ha piazzato in camera, adesso lui vuole uscire, vabbè, approfitterò della prossima pausa. Allora, una delle cose che a cui terrei parlare, perché studiandomelo un pochettino, effettivamente con gli occhi di uno che ha 30 anni dopo, 30 anni di più, 35 anni di più, vedo effettivamente delle cose che sono diverse. Allora, un'intervista ad Antonio Ricci, di cui parleremo sicuramente male più tardi, disse: avevo in mente di creare una trasmissione tutta di comici, pativo le canzoni, i balletti di ospiti del varietà classico. Allora da vita uno show che era una macedonia di generi, una via di mezzo tra sitcom, varietà, effetti speciali, satira, politica, parodie, gag, barzellette e tormentoni. Ma in realtà la vera genialata di Ricci, qui bisogna riconoscerlo, è stato di introdurre un ritmo talmente serrato nel montaggio, cioè non c'erano pause, non c'era il pubblico che faceva salire con l'applauso l'ospite sul palco, c'era praticamente ogni cosa arrivava tagliata veramente sì, al millisecondo, giusto perché così facendo lo spot pubblicitario non era fuori dal ritmo della trasmissione, cioè era una trasmissione che era veramente violentemente pensata per essere una trasmissione da TV commerciale, per cui lo spot televisivo non era un'introduzione ma era una continuazione del flusso narrativo, e in questo bisogna dire che nel bene e nel male, probabilmente più nel male che nel bene, bisogna riconoscere questa grandiosità, perché è stato veramente, dal punto di vista di, tu parlavi di Non Stop, sì, tutto, però Drive-In dal punto di vista del ritmo condensava in un'ora quello che le altre trasmissioni facevano in un'ora e mezza, due ore. Che poi, per se cui ci questa, pensi, questa Alex, compressione, se tu ci pensi, Alex, quello che odiavamo noi appunto del varietà era proprio tutti quei tempi morti, no? La lentezza. Cioè, tutta quella, certo, la lentezza. Secondo voi si è ispirato a Benny Hill? Sì, ma Benny Hill era parte di Drive-In. Benny Hill è arrivato per la prima volta con Drive-In in Italia. Benny Hill fu trasmesso da Drive-In. Che non abbiamo, sì, la era, veniva utilizzato verso la fine come, sì, come presigla finale, sì, è vero, è vero. Però a un certo punto diventa parte integrante anche con le scene che Benny Hill ha fatto con quello che poi ha fatto Crocodile Dundee. Esatto, era preso sia Benny Hill e non era insieme a Benny Hill, ma Crocodile Dundee era una trasmissione comica di questo comico australiano, e quindi i pezzettini di questa trasmissione comica australiana che faceva quello che ha fatto il film che noi conosciamo col film di Crocodile Paul Dundee, Logan, ecco. Paul Logan, venivano inseriti all'interno di Drive-In, quindi Drive-In riciclava anche programmi comici, vabbè, famosi esteri. Vabbè, ci stava, cioè, quindi comunque una trasmissione che indipendentemente da quanto durava, come dice Alex, cioè aveva un ritmo abbastanza serrato, perché comunque gli sketch erano tutti molto brevi e si inframmezzavano molto rapidamente. Ci stava anche comunque, andavi a prendere materiale, poi sicuramente c'è uno studio internazionale dietro rispetto a portare uno show così di rottura, no? Così moderno per l'epoca in Italia, no? Quindi questo tanto, sì, tanto metto la sigla che dovrebbe essere, non so, non parte perché il computer si impalla. Beh, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo computer, complimenti. E... si impalla. No, io ho questa, però, che è uguale a quella di prima, però. Te l'ho scaricata due volte, allora. Sì, è la stessa, è la stessa. Vabbè, dai, la mettiamo così. Dai, vai, vai, vai. Vai, Alex. Allora, piccolo di riassunto per chi non c'era. In pratica, il conduttore era Gianfranco D'Angelo, coadiuvato dal suo aiutante Ezio Greggio, e nelle prime stagioni loro cercavano sempre di fare un po', erano un po' i trusconi, cercavano di intortare, di imbambolare Beruschi, che cercava di svicolare dalla sua vita monotona e da sua moglie, e si era abbastanza invaghito della cassiera che nelle prime stagioni era Carmen Russo, poi diventa Lori del Santo, e cercano di appioppargli un bidone, per cui questa era una sorta di collante, però effettivamente tutti gli comici che si sono avvicendati sul palco e anche fuori dal palco, perché molte degli sketch si svolgevano in mezzo al pubblico, per cui c'era questo immaginario di una scenografia a 360 gradi in cui non c'era un davanti e un dietro, un loro e noi, ma erano tutti insieme, tutti coinvolti, con una vagonata violenta di risate finte che io ogni tanto utilizzo ancora come nei miei podcast, tirandomi dietro le ire di un sacco di gente. Però devo essere sincero, per certi versi il riccismo, nel senso di mandare in vacca la scoreggia, la volgarità, il tratto volutamente fatto male, il tratto quasi amatoriale, e questo lo vediamo ancora oggi con Striscia la Notizia, Paperissima, credo che per certi versi, se dal mio punto di vista, io lo affronto sempre come una cosa sopra le righe, nel senso è talmente una merda che fa ridere. Mentre secondo me è quella, casi, infatti. Sì, sì. Probabilmente anche questa nella sua idea, però il problema è che è diventato talmente tanta questa, è talmente merda che fa ridere, solo che siamo circolati da merda. Non sto dicendo che lo fa solo lui, prima che appunto Roberto mi tacci di essere uno sporco comunista. Vabbè, ma in realtà anche Ricci era uno sporco comunista, quindi... È un comunista, magari non sporco. Proprio, cioè, convinto di questo. Dicevo, cioè... il fatto di essere diventato uno stampino, di non essere stato un'eccezione ma assolutamente la regola, anzi di iterarla fino all'inverosimile, proprio il concetto stesso di tormentone che probabilmente è nato qui, adesso nella comicità sembra essere l'unica cosa che funziona, che mi fa ridere, anzi non mi fa ridere, devo essere sincero, in questo momento sto facendo della critica ma non me ne frega un cazzo, cioè sono venuto qui tanto, sono un ospite, mi mandate a cagare e non ci vediamo più. No, la punizione è contraria, dovrei tornare. La punizione è tornare, però devi tornare anche quando non vuoi. Io vi faccio una domanda a tutti quanti, in particolare ad Alex naturalmente, poi sentiamo un po', e poi alla fine quando avete risposto vi dico il mio rapporto con Drive-In, che è importante perché perché poi dopo è successivo alla domanda che voglio fare dopo, ulteriore. Quali sono i tratti distintivi, al di là dell'aspetto tecnico che abbiamo appena detto, quindi la velocità, le veloci transizioni, qual è il tratto distintivo dei drive-in secondo voi, Alex? Allora, posto che la mia è un'analisi che viene più dalla pancia di allora, il tratto distintivo del drive-in era stato proprio essenzialmente il simbolo stesso della TV commerciale di Berlusconi, cioè il fatto di poter fare delle cose che in Rai non si facevano, e di conseguenza mi sembrava una cosa molto più giovane. Io quando lo guardavo mi sembrava una cosa che parlasse più a me, mentre se io guardavo Pippo Baudo mi sembrava una cosa che parlasse a qualcun altro. Poi in realtà c'è, cioè, questa analisi la posso fare adesso, però allora dicevo sì, però Pippo Baudo che rottura di coglioni, adesso cioè, magari avercene di Pippi Baudi. mentre Drive-In era una cosa che era per me, era giovane dentro, era giovane nella forma, era giovane anche nel linguaggio, anche in quello che si diceva. Poi anche Drive-In faceva satira politica, parlava, c'erano diversi personaggi interpretati da Ezio Greggio che erano appunto personaggi politici di allora. Però nel senso, cioè, nonostante lo faceva in un modo che potevo capirlo anche io, che francamente il telegiornale non lo guardavo a 9 anni, 10 anni, faccio fatica a guardarlo adesso, cioè. Per cui secondo me questo è stato il tratto, nel senso che era veramente uno svecchiamento che ha parlato a molta più gente, perché la Rai è ancora oggi è così, sembra sempre la stessa cosa, è solo che la popolazione invecchia e di conseguenza c'è sempre meno gente, cioè nel senso, a un certo punto smetteranno di fare Don Matteo perché tutti quelli che guardavano Don Matteo sono morti. Sono d'accordo. Carlo? Allora, essenzialmente sono d'accordo, nel senso che ha colto il punto. Basta, diciamo, Carlo, essere d'accordo con me, io voglio litigare con te, cazzo. Va bene, litighiamo subito. Allora, la cosa che hai detto, per esempio, sono d'accordo, ma per esempio quando hai detto avercene di Pippo Davolo adesso, lo dici perché sei vecchio, giustamente. Sì, se tu fossi giovane avresti detto che due palle. Vabbè, io Pippo Baudo come lo dicevi all'epoca. No, allora, io Pippo Baudo lo disprezzo anche oggi. Se devo dire, se dovessi prendere una figura del passato e dire magari avercene ancora, era Corrado. Per me Corrado è stato il più, vabbè, comunque, okay, va bene, il più grande di tutti, dai. Vai. A parte queste che sono ovviamente stupidate che stiamo dicendo, però perché Corrado è romano, perché Pippo sì. Baudo è siciliano, era e Mike Bongiorno era un filo nazista, cioè. Vabbè, vai. Comunque, Carlo, diceva la principale caratteristica di Drive-In è che era un programma giovane, pensato per i giovani, con una voce giovane, completamente diversa dalla proposizione Rai di quel periodo, che invece era ovviamente pensata per il pubblico generalista e principalmente vecchio. Sì, Drive-In parlava proprio a quella generazione lì, parlava la nostra generazione. Io avevo 13 anni e per me Drive-In era il programma della TV più bello dell'universo, perché parlava il mio linguaggio, perché era dedicato a me, tutti i giovani ci si riconosceva. Io andavo a scuola e a scuola tutti guardavano Drive-In, tutti parlavano di Drive-In, il giorno prima tutti avevano visto Drive-In, tutti aspettavano Drive-In della settimana dopo. E c'è da dire che invece riguardando cosa capisco guardandolo 20 anni dopo, 30 anni dopo, anzi scusate, ormai sono 30 e passa anni, mi accorgo che prendeva tantissimo dalla televisione estera, cioè prendeva quelle caratteristiche che erano proprie della TV estera, che era già commerciale da tanti anni, e le riportava in Italia, cosa che invece in Italia noi avevamo ancora una televisione improntata sulla TV statale tradizionale, quindi la velocità, tutta il fatto di avere il pubblico non diviso a malinterno, cioè tutte queste caratteristiche in realtà arrivavano dalle trasmissioni comiche che si vedevano in Inghilterra, che si vedevano negli Stati Uniti, eccetera, e le portava in Italia, come al solito riciclava quello che funzionava all'estero, quindi sicuramente bravo Ricci, ma non è che ha inventato così dal niente, si è inventato qualcosa di nuovo, si è fortemente ispirato bene. Vabbè, ma questo non è un demerito, cioè, anzi, no, infatti non è un demerito, assolutamente. La capacità di osservare l'esterno e renderlo compatibile con la tua società, poi alla fine, in qualche maniera, assolutamente. E quindi in pratica era, diciamo, che è riuscito a creare questo prodotto che attirava tantissimo e ha praticamente certificato la televisione commerciale e soprattutto i canali di Berlusconi di quel periodo. Cioè penso che senza Drive-In probabilmente ci sarà stato, se non c'era Drive-In ci sarà stato qualcos'altro dopo, però sicuramente nel, quello che è successo è che Drive-In ha reso popolari i canali della Fininvest rispetto alla Rai. Una bella noi abbiamo iniziato a guardare Italia 1, Canale 5 eccetera perché c'era Drive-In e poi tutto di seguito tra virgolette, ecco. Sono quello... abbastanza d'accordo. Davide e poi Roberto, qual è il segno distintivo secondo voi di Drive-In? Allora, io con Drive-In ho un rapporto molto diverso da quello che avete avuto tutti voi, credo. Io più da vecchio, no? No, io avevo 18 anni quando è uscita la prima stagione e sono andato avanti, quindi io già avevo una visione diversa del ragazzino. Ero comunque un ragazzino, però 18 anni, io già lavoravo da 2 anni e lavoravo, avevo 2 lavori e quindi la sera facilmente lavoravo, soprattutto il sabato e la domenica. Nonostante tutto, ovviamente i Drive-In ne ho visti tanti, ma li ho sempre visti non direttamente ma indirettamente, cioè lo ascoltavo più che lo guardavo, che è quasi uguale, perché in realtà sai, il vedere comici che fanno le battute non è che sia così importante tra virgolette, però la soglia di attenzione era sicuramente minore. Io comunque come facevi con le serie TV, cioè hai raccontato l'altra volta la stessa cosa. Esatto, è la stessa cosa, cioè tu la televisione non la guardavi, stavi lì a fare le cose sul computer e ce l'avevi come rumore. Solo che non guardare un telefilm magari ti perdi delle cose, non guardare dei comici mentre fanno le loro battute potrebbe essere meno di impatto. Resta il fatto, qui sono d'accordo parzialmente ma poi ti dico perché, vai, continua, scusa. No, comunque di sicuro non è stata una trasmissione che mi ha fatto ridere. Io non ho quasi mai riso con Drive-In, davvero, ma per davvero, ma tu c'hai la morte dentro. Io non ho la morte. Cioè io, e rivedendolo adesso, ho rivisto degli episodi giusto perché dovevamo parlare stasera, mi sentivo quasi male per loro, mi vergognavo per loro, cioè davvero, io cringe. C'è stata una cosa, è invecchiato malissimo, su questo siamo tutti d'accordo. Certo. Io quando ho visto delle cose ho detto ma veramente hanno fatto questa roba qua? Comunque no. Beh, però scusami, ti dirò, pensa che con c'era un sacco di censure, autocensura, non tanto di argomenti, ma proprio di cose che non si volevano raccontare, per cui quella era la prima volta che certi termini, anche proprio normali, venivano pronunciati. No, per certo, ma anche dal punto di vista politico si andava ben sopra la soglia di cui eravamo abituati, in quei tempi intendo. Infatti quando lo vedevo dicevo, ma sono riusciti a fare questo? In tutti e due i sensi, una cosa di tipo come dire che mi vergognavo per loro, altre per dire mazza che come andavano giù duri proprio considerando appunto i tempi, pensando ai tempi. Comunque vabbè, detto questo, l'unico segno distintivo che posso dire è che per me è stata l'unica trasmissione di questo genere che ricordo di quei tempi, fatta in questo modo e con questa comicità, con questo ritmo, con tutte queste cose che ci siamo detti, e non ricordo null'altro su nessun altro canale che mi possa assomigliare a questo qua che ho visto, se non negli anni successivi, parlo di 20 o 30 anni dopo, con gli Zelig e compagnia. No, magari Zelig, ne abbiamo viste delle cose, lo scrondo poi abbiamo in televisione, ricordiamoci sempre, insomma, che poi è stata un'escalation veramente senza fine. Roberto, ma dove era lo scrondo, scusa? Non mi ricordo, non mi ricordo più. La TV delle ragazze? No, sì, quella era la Rai, quella era la televisione intellettualoide. No, lo scrondo stava se faccio un figlio, lo chiamo Emilio, non era quello, Emilio. Era su Emilio. Bravo, sì. Mamma mia, Emilio a me piaceva anche, però se mi tiri dentro lo scrondo mi faceva vomitare già allora. Mi imbarazzava profondamente vedere lo scrondo, cioè nel senso, tanto al me che l'ho mezzo rimosso, lo scrondo. Grazie di avermelo ritirato fuori. Che se lo ricorda però. Me lo ricordo perché poi purtroppo è stato talmente un impatto traumatico che occupa ancora oggi una parte, insomma, del mio cervello. Comunque, Roberto, al di là dello scrondo, io vorrei lo scrondo del Mega Salvi Show, io vorrei un attimo inquadrare il periodo, perché comunque anche in Rai c'erano alcune cose, ma non trash, perché questo era alla fine come Drive-In. Vabbè, c'era quello classico, come abbiamo detto prima, che era non stop, ma mi viene in mente l'altra domenica di Arbore. Scusa Roberto, interrompo. Red Max in chat ci dice che lo scrondo era in Matrioska. Io manco mi ricordo Matrioska, tanto sì, ne approfittiamo. Sì, ecco perché mi. Sì, in Matrioska doveva esserci dentro i guzzanti, anche se non ricordo male, per questo che poi l'ho confuso con la TV delle ragazze. Però magari sono ricordi. Vabbè, comunque l'hanno tirato quindi fuori due o tre volte lo scrondo. Quindi poi salutiamo anche Melanie e Vincent Valentine, che giustamente mette il cuoricino a Drive In. Vai, scusa Robby, scusa. Va bene. E quindi vi dicevo, in parte c'era anche sulla Rai, è sicuramente più intellettualoide, appunto come l'altra domenica, pensiamo ad Arbore, quelli della notte, Indietro tutta. Mamma mia che programma. Però a me piaceva Drive-In, però io sono d'accordo con Davide, a me non faceva ridere, era un intrattenimento, cioè lo ascoltavo mentre facevo i compiti, solitamente la sera perché ero in ritardo mondiale globale per la mattina dopo, non ho fatto niente durante tutto il giorno, ed era per me un sottofondo simpatico. Ricordiamo, non so, il sedere della Lori del Santo in super primo piano, ecco, con cosa deve quadratura. Parlare Robert del sedere, ma all'epoca no ma invece c'ha ragione, c'ha ragione, però lo tira fuori la Sofia, la tizia lì, come si chiama, che faceva la quella del drive-in, all'epoca era una cosa scandalosa vedere un sedere in come dire, in una trasmissione in prima serata. Adesso ci fa ridere, cioè il sedere. E quindi io però oggi magari lo vedessimo un sedere in televisione. Magari lo vedessimo. Io sono abbastanza d'accordo con Davide. Era per me un bel intrattenimento trash. Probabilmente anche per questo è invecchiata male, perché vabbè, è invecchiata male anche perché è cambiata la società, cioè racconta un mondo che non esiste più, cioè semplicemente. Però ricordiamoci, per quanto per poco tempo, almeno io a scuola, noi diravamo troppo giusto, quelle altre idiozie delle c'erano quell'epoca lì, era quello. Quindi, sì, ma anche altri paninaria. Tormentoni, Asfidanken, Oronzo, Panzone, tutte le altre Asfidanken, cose. Ricordiamo che politicamente oggi non sarebbe assolutamente minimamente concepibile una cosa del genere in televisione, con un cane drogato su un piedistallo, quello che fa Asfidanken, cioè, ma voi immaginate quel povero cane, cioè, nel senso. Vabbè, comunque. Vabbè. Dai Robby, scusa, io... No, è tutto qui, quindi io sono d'accordo con Davide, a me piaceva, è stato un esperimento interessante che io lo vedevo sempre praticamente, quindi sebbene non la ricordi come la mia trasmissione preferita, almeno come comicità, non mi faceva ridere. Allora, io invece vi dico, e poi dopo ritorniamo ad Alex, così poi andiamo anche un po' avanti, no? Facciamo magari qualche citazione, entriamo un po' più. E per me Drive-In era la figa, cioè nel senso che comunque quando io andavo a scuola il giorno dopo. No, ma è così, non è un altro. Ciucciavi le tette delle Barbie. No, ma non ero io il problema. Il problema è che quando io la mattina dopo andavo a scuola c'erano tutti, mi sto quello. Perché Drive-In ha spaccato tanto anche in questo, fondamentalmente. Anzi, anche lì ha dato la stura, no? Ha dato l'inizio praticamente a tutta una serie di situazioni che poi si sono ramificate e con un'escalation, secondo me, da Drive-In a colpo grosso c'è passato poco. Poi fondamentalmente, no? Nel senso che ricordati che noi avevamo la bustarella qui al nord. Esatto, infatti, stavo per dirlo io. Negli anni 70 si vedeva di tutto, molto di peggio anche. Allora, si vedeva anche da noi in determinati orari, quando c'era un determinato canale che metteva il simbolino e diventava rosso e cominciavano a succedere un po' di varie cose. Però in generale, se noi parliamo di televisione normale, io non senza entrare quando Le Capri mandavano i pornazzi, cioè nel senso ma quello era dopo, diciamo che in linea massima comunque questa cosa, tutta la rottura che ha creato Drive-In, comunque abbiamo detto che poi si è propagata comunque nell'ambito della televisione, non soltanto in Mediaset, prevalentemente in Mediaset, che ne ha fatto comunque un cavallo di battaglia. Io devo dire la verità, quando ero ragazzino, qui vi sconvolgerò questa cosa, però ero molto bacchettone, ero un moralista del cazzo, vestivo col cravattino, io a 13 anni andavo in giro con la cravatta, cioè so che è una cosa che questa cosa vi turberà l'anima e parlavo un perfetto italiano e non sopportavo le parolacce, ed era una cosa che infatti mi faccio un po' schifo da solo a pensare che sono stato così. E a me Drive-In mi dava fastidio, perché Drive-In era la rottura, no? Era l'antisistema, era la volgarità, era, come posso dire, la contrapposizione alla TV di Stato, cioè non è che facevo sti ragionamenti, però dentro di me evidentemente c'era un po' insito questa cosa, e mi dava fastidio vedere Tini Canzino con le zine fuori, cioè non stava che le zine fuori, ma fondamentalmente. E poi qui nasce questa mia non particolare affezione a Drive-In, cioè nonostante lo vedevo sempre, perché poi è quella cosa un po' maniacale, cioè mi disturba, me lo guardo. Cioè, e poi dopo chiaramente piano piano crescendo, perché poi siamo un po' anche cresciuti con Drive-In. Quante stagioni hanno fatto? Dall'83 all'87, se non sbaglio. Dall'83-88, per 88, cui sono, okay, sì. Vabbè, comunque sono tanti anni. Se tu consideri che eri ragazzino, quando è finito eri già più grandicello, insomma. Dai 13 ai 18, per dai, sì, mi appunto riguarda. Quindi in linea massima vedi che è un passaggio importante dalla nostra vita, sì. Poi alla fine, crescendo, ovviamente magari lo apprezzavi di più, anche se poi è andato anche degradando, cioè nel senso, secondo me ha perso anche molto del suo fascino. Però secondo me Drive-In era molto molto Tini Canzino, cioè era molto Lori del Santo, no? Cioè nel senso, loro facevano tanto perché i ragazzini comunque alla fine se le vedevano, perché dove le vedevano due gnoccone mezze nude così all'interno della televisione normale, in condizioni normali, in orari normali? Era un po' anche questo, no? E poi la mia domanda invece che faccio, e qui chiudo, è: ma che fine ha fatto Tini Canzino, appunto? Ma soprattutto, certe cose è meglio non sapere. Ma soprattutto, chi cazzo era Tini Canzino? Perché questa è anche un'altra domanda importante. Da dove esce fuori? Cioè, che poi non parlava manco italiano, se non mi ricordo male. No, era nella commedia all'italiana in molti di quei film. Ah, io me la ricordo. Me la ricordo solo su Arrapao, il film quello di Squallor. Ma di solo Squallor. Madonna, un altro ricordo di questo. Squallor. Beh, Squallor meriterebbe roba. Squallor meriterebbe un parte, capitolone. Esatto. Sì, cioè, una puntata a parte. Lì sì. Era veramente tanta roba. Tanta roba, sì. Tra Arrapao. Rambo, com'è che si chiama la parodia di Rambo? Manzo. Tocca l'albicocca. No. Avevo tutte le cassette, ovviamente. Quindi Alex, tu non sai che fine ha fatto Tini Canzino e riprendi insomma le redini della non lo so, ma il signor Wikipedia ce lo potrebbe rivelare. Volevo solo aggiungere che anche Matrioska era autorata da Ricci. Da Ricci. Poi c'è il trash lì e lì rimane. Quindi c'è la firma. C'è la firma. Sullo scrondo anche. Allora, una delle cose che però facevano effettivamente, che a rileggere le note mi sono detto cacchio, è vero che loro facevano le parodie dei film o delle telenovele, sì. Per esempio, sì, dove sì, c'era sì. Come si chiama? Una brutta fazenda. Una bella fazenda. Non era, ovvero Berruscao, il penultimo mandingo, che ha avuto una presa per il culo delle telenovele che andavano in onda di quegli anni, che erano proprio girate in Sud America, che era una cosa più becera, sì. Terrificante. Nella terza edizione c'è Beruschi e Fumero fanno i protagonisti di Frankenstein Junior, chiamata la parodia di Frankenstein Junior, chiamata Dr. Beruscus. Poi nella quarta stagione Massimo Boldi e Teo Teoroccoli fanno la parodia di Star Trek che si chiama Bold Trek. Terrificante, puro proprio. Esatto. Nella quarta e nella quinta stagione fanno parodie dei film. In ogni puntata c'era una parodia di un film. Effettivamente, però, si impegnavano perché erano anche costruiti bene. E poi in realtà poi fanno un sacco di hanno sperimentato effettivamente tanto. Ed era difficile. Io faccio fatica a ricordarmi una sorta di fil rouge di filo conduttore. Sembrava che ogni volta si inventassero qualcosa di nuovo. E devo essere sincero: il fatto che non ci fosse la presentazione di queste cose qua, che le cose ti arrivavano esattamente così di colpo, facevi anche fatica, cioè non c'era l'attesa del piacere che se stesse il piacere, ti arrivava direttamente la botta, scusate la citazione, non è ovviamente quello, per cui effettivamente ho dei ricordi che sono molto vaghi, ho dei ricordi molto precisi dei personaggi, soprattutto per i loro tormentoni, tra il Paninaro, Pistarino che guidava l'autobus, Salvi, Madonna. Di Zuzzurro e Gaspare, che io adoravo tantissimo. Anche perché Zuzzurro e Gaspare mi piacevano tantissimo perché erano non erano per niente volgari, erano surreali. La brioche, esatto, riuscivano a fare le cose senza dire niente di sarebbero piaciuti anche a te col cravattino, direi. No, devo dire che sì, Zuzzurro e Gaspare mi piacevano, devo dire la verità, mi stavano simpatici in effetti. Comunque avevo ragione io, vedete, questa questione dell'italiano, me lo ricordavo che parlava male l'italiano. Perché si parlava male. Tini Canzino, pseudonimo di Fotina Lappa, e poi c'è scritto in greco come si dice, è praticamente una showgirl, attrice addirittura, e opinionista greca naturalizzata italiana, quindi fa pure l'opinionista Tini Canzino. Adesso io... Vabbè, l'opinionismo è bellissimo. Io voglio sapere... Aveva delle opinioni. Che poi non era... Interessante. Che poi era un troione, perché diciamo, con tutto rispetto per la signora Fotina, abbia pazienza, non la voglio insultare, però era un troione perché non era una bellezza, cioè, nel senso, era... Ma secondo me neanche le altre due, forse Lore del Santo a quel tempo era carina, però boh... Cioè, io devo essere sincero, ero piccolo, avevo 9 anni, per cui non è che ero tanto lì profilato sulle tette di Carmen Russo, Lore del Santo mi ricordo più che era carina di faccia. Per Carmen Russo, se non ci avesse avuto quelle tette, non sarebbe stata nessuno. Cioè, no, ma naturale. Comunque idem, confermo anch'io, ne avevo 13 e le parti dove c'erano queste signorine provocanti non me ne fregava niente, io aspettavo. Vabbè, tu, se tu c'hai, tu c'hai dei problemi, oggettivamente sei una persona problematica e questo l'abbiamo capito, insomma, cioè, non puoi dire che non che a te non te fregasse niente non vuol dire che al resto del mondo non fregasse, insomma. Ma l'ha appena detto Alex, che aveva 9 anni era la stessa cosa, io ne avevo 13, ero uguale, cioè non mi interessava quella parte lì, mi interessavano i comici e mi facevano ridere, facevano riderissimo oltretutto, cioè quando c'era Salvi ero per terra piegato da ridere, al contrario da Salvi proprio zero. Mega Salvi show, ero le lacrime agli occhi. Salvi zero proprio. No, Salvi proprio. Sembrava che leggesse, cacchio. Sembrava che leggesse il Salvi. Eppure lui se l'è fatta una carriera, Salvi, perché ci ha fatto il disco, ha fatto anche film drammatici, cioè comunque. Beh, quello in tarda età. Cioè. Ah, salutiamo, sì. Salutiamo lo zio Matto che si è unito alla chat di lo zio Matto. Okay, no, io zio adesso Matto. Vi incollo una foto di Tini Canzino oggi, poverina, cioè veramente. Hai fatto che poi Salvi vabbè, c'avrà, non è che gli anni che è del 50, per è noi, del 59, del 59, sì, sì. Vabbè, dai. Devo dire, poi Salvi, oh, Madonna santa. Dai, però cioè che truccata anche peggio. Sì, dove l'hai messa la foto? Sulla diretta Time. Eccola qua. Su diretta Time, diciamo che ha fatto troppa ginnastica all'epoca, dai ragazzi, si capisce, insomma. Ma che stronzo, dai, Salvi era assistente d'architettura, tu pensa. E vabbè, Elio invece faceva l'ingegnere. Vabbè, sì, ma Elio la sua intelligenza l'ha dimostrata, cioè, tanto ciao Claudio, benvenuto in Runtime Radio, cioè l'ha dimostrato in tante altre cose. A me Salvi veramente, ragazzi, forse non lo capivo io, però proprio no, cioè tutti gli altri personaggi di Drive-In, quelli storici, insomma, a me facevano, cioè alla fine mi facevano anche ridere, cioè nel senso, dopo che mi ero demoralizzato, smoralizzato da questa mia cosa, però insomma a me mi faceva assolutamente ridere, insomma, boh, non lo so. Io adesso non ci ho pensato, io a casa, ma non so per quale motivo, ho l'LP di Salvi, e vi dirò che la canzone Taxi, secondo me è bellissima, cioè proprio c'ha questo, c'è da spostare questo una macchina. Quella macchina quella qua, non era Taxi. Quella è stata la seconda canzone, è stata Taxi. Ah, quella Coimbra, Portugal. Com'era? Cioè, ci devi spiegare come mai. Secondo me l'ha fatta Davide Gatti. Quelli. Non lo so. Perché lo compravo tutti. Non lo so. Allora, ce l'avevo prima in classifica per mesi. Sì, figure, sì, ce l'avevo anch'io perché mio fratello queste porcate le comprava tutte. Ve lo ricordate, Armando De Rasa? La stessa cosa, no? Sì, Armando De Rasa. Voglia di Escobar, no? Cioè, quella era. Speranzia di Escobar, esatto, sì, bravo. E ragazzi, questo era i 3-3 a Drive-In, li facciamo sentire? Sì, che 3-3 dice, erano tre terroni, sì, quelli quali ridevo proprio zero. perché erano terroni del cazzo, c'ha ragione. Esatto. Scusa, no. Che fanno sti terroni maledetti che invadono la nostra milanesità? Ma che costruirmi e costituirmi? Sei venuto a costituirti? Quando hai scippato la vecchia con la collana? Quando hai scippato la vecchia americana? Ma che scippai? Non l'ho scippata nessuno! Ma stavi le cose del 2030! Che c'è questa cosa? No, è che nella firma americana ci sta sempre questa parte dell'interrogatorio. Dai silenzio, dico io! Ma state pazzi! Vabbè, volevo partecipare! Sentite, basta, mi sono scocciato, ora me ne vado! Vado dai carabinieri! Vieni qua! Dai, Gwendy, vieni qua! I carabinieri, hai detto? La concorrenza! La concorrenza! Cagazzi, non fallo così! Non ma mamma ne manca proprio! Vieni qua che... Non lo volevo dire, non lo volevo dire! Qua, qua abbiamo milioni di clienti che vanno e vengono e che ritornano da noi! Che se davano bene tu dici questa cosa fuori posto! Tu sta bene! Capito? Che poi no, Alex, tra l'altro queste qua... È proprio quel tipo di comicità classica. Se tu pensi poi in realtà la parte più cabarettistica del drive-in alla fine era molto classico, no? Quindi era più il ritmo e magari a volte le situazioni molto più scorrette che alla fine facevano tanto ride, no? Però quando sento queste risate mi viene in mente di Bisam Radio. Che poi non so quei file, i samples che c'è tu, capito, che parte il file, no, questi alzavano, abbassavano il volume, se tu dici za, capito, cioè, proprio stanno col cursore za, alzavano, abbassavano. L'acqua è poca, ossia scarseggia, e la papera non galleggia. Esatto, no, erano forti delle qualsiasi tre. Cosa a esposizione. Del... bravo, esatto, che tu tra l'altro se non li vedi fa molto, no, anche il fatto di la mimica che ci avevano corporale, insomma, così come Gaspare Zuzzurro, la stessa cosa, cioè alla fine era tutto pure un gioco del movimento del corpo, no, quindi alla fine facevano anche per questo. Alex. Sì, infatti è effettivamente è visivo, cioè raccontarlo non fa ridere, infatti non so chi ci sta ascoltando è abbastanza anziano da ricordarsi sta roba. Vabbè, se la ricorda come la stava a far ricordare a noi, cioè non è che, esatto, insomma, quindi questo è sentite. Io poi adesso devo essere sincero, voi la puntata l'avete anche fatta, io la questione dei paninari l'ho capita tanto dopo. Che cos'erano, che tipo di movimento erano, che aveva una connotazione anche politica, loro e la loro controparte, che gli ha anche assegnato una connotazione politica e sociale. Cioè, quello che a Roma sono i pariolini, noi avevamo i paninari per certi versi. E noi vivevamo i paninari veramente come. Cioè, io veramente stavo in un paese, cioè, Carlo a Settimo, io a Bareggio, che sono lì attaccati. Però cioè, eravamo alle province del Grande Impero. Quando facevo le elementari, le medie, il paninaro era. Ne parlavano in televisione, ma non avevo mai visto. Cioè, la gente magari si comprava le robe di marca, ma non. Eravamo una brutta copia di qualcosa che abbiamo visto in televisione, ma probabilmente l'abbiamo visto più su drive-in che da altre parti. Magari c'era il servizio al telegiornale, la moda dei paninari, sì, ma no. Lo stesso stregua di la moda di internet, vi ricordate? Cioè, negli anni 90. Beh, diciamo che di questa cosa l'abbiamo trattata anche quando eravamo futuro, proprio dicendo quanto poi c'era già cioè, differenza proprio tra regione e regione, proprio anche in questo tipo di mode. Perché sì, da noi a Roma, per esempio, il paninaro è arrivato, però da noi era diverso. Cioè, a Roma era veramente una connotazione politica la suddivisione tra gruppi sociali dei ragazzi, capito? Cioè, quindi c'era comunque quelli di Roma Nord e quelli di Roma Sud, alla fine è ancora oggi così, cioè, nel senso, se vai a vedere. Quindi e poi è il Vietnam, giustamente. Esatto, stavo per dirlo io. La guerra è infinita. Vorrei aprire una parentesi e poi chiuderla subito dopo. Lo posso dire qui perché questo microfono da tanto tempo che non ho un microfono aperto. A me la serie di Zero Calcare su Netflix è piaciuta tantissimo. Meno male, va, perché veramente sono rotto proprio il cazzo con questa storia dei dialetti, delle cose. Cioè. Comunque. Però è una questione di dialetto e non dialetto, secondo me è una di quelle cose che ti prende la pancia e te la strappa via perché ti mette davanti uno specchio e dice te sei tu stronzo. Ma lui è bravo, perché poi tra l'altro secondo me è un lungometraggio suddiviso in episodi per praticità. Sì. Comunque lo zio matto, ossia Claudio, questo ragazzo che è entrato adesso, lui dice che Francesco Saldi si ricorda le magliette, tipo aiuta il traffico, investi un vigile. Cioè io penso che per una cosa del genere oggi ci sarebbe la galera. e invece aveva fatto anche un pupazzo che si chiamava Porco Cane, ed era un pupazzo che era metà maiale metà cane. Il Porco Cane, esatto. E si ricorda che Salvi è stato anche a Sanremo, giustamente, Red Max. Quindi, sì, sì, a Sanremo ci sono stati tutti, ragazzi. Pippo Franco. La canzone era A che ha presentato a Sanremo. Sì. Si chiamava A, era il lato A, e sul lato B c'era B, ovviamente. Le 45 giri. Era comunque un'innovazione. No, no, ma faceva morire da ridere a me. No, a me morire no, però no, diciamo forse c'era, una sua, c'era anche una genialità dietro, e non lo nego, però a me non mi faceva ridere, ragazzi. È così, a Davide non faceva ridere niente del drive-in, quindi non faceva ridere tutto. Esatto, è vero. Red Max dice esatto, la canzone è esatto. Esatto. Esatto. Tranquilli, paninaro. So sempre Braschi. Io, Gran Gallo, l'unico paninaro professionista troppo giusto. Novità? Un panotto bello fresco, pronto per l'esame di ammissione al nostro giro. Questo qua è un estratto del film. Sì? Perché non ho trovato un contributo della trasmissione. Perché effettivamente Mediaset nel corso degli anni ha fatto razzia di tutto quello che c'era stava su YouTube. Bene. Per vari motivi. Beh, di solito tendenzialmente se carica le cose vengono fatte cadere, ma comunque c'è sempre qualcuno che le ricarica. Su internet è difficile, la roba sparisce, come ovviamente la Clerici con la barra che periodicamente la borra che periodicamente la Rai la fa sparire, ma poi viene sempre ricaricata, insomma, c'è sempre qualcuno. Adesso facci vedere la tua grinta sterminata. Vabbè, questo quindi essendo un film, okay. Insomma, io volevo dire una cosa su Gaspare Zuzzurro, che per me sono stati un duo comico, uno dei migliori che abbiamo avuto in Italia, che Drive-In li ha resi popolari in quegli anni. E devo dire una cosa, che almeno per quanto mi riguarda, io Drive-In l'ho visto appunto da quando avevo 13 anni fino poi ai 18. Ovviamente poi negli anni è scemato, perché ovviamente come tutte le cose i primi anni lo guardavano tutti, poi via via è diventato ripetitivo, alla fine poi è andato a sparire. Ma Gaspare Zuzzurro, che me li ha fatti conoscere Drive-In, sono stati i primi comici che poi io sono andato a vedere dal vivo, perché appunto crescendo, quando avevo credo 16 o 17 anni, in vacanza ho visto un cartellone spettacolo di Zuzzurro e Gaspare, e ricordandomeli dal drive-in poi sono andato a vederli dal vivo in teatro, e lì è stata la prima volta in cui mi sono reso conto che vedere dei comici in teatro fa 100 volte più ridere che guardarli in televisione, certo. Ed è 1000 volte più bello, perché loro due poi dal vivo nello spettacolo sono stati veramente fantastici. Fu una cosa. C'è più energia, ricordo, c'è più interazione, sì, più assolutamente. Ricordo che facevano una scena bellissima dell'automobile finta, che poi fu ripresa da Aldo, Giovanni e Giacomo. Scena dell'automobile finta la inventarono Zuzzurro e Gaspare, la facevano nel loro sketch in teatro, loro che si sedevano sulla sedia, hai lasciato la porta aperta, chiudi la porta, eccetera. Infatti quando poi l'ho rivista con Aldo, Giovanni e Giacomo, in cui a molti altri ride, anch'io ho riso con Aldo, però mi è venuto subito in mente, ho detto ah sì, ma l'han copiata da Gaspare Zuzzurro, che lo facevano già 10 anni prima di loro praticamente. Ma magari era anche un omaggio, magari, non credo che sia assolutamente appropriato. Sì, ma tutti i comici poi alla fine un po', cioè, sì, una prendi esperienza, una citazione, certo. Quello è normale, sì, però devo dire questo, cioè mi resi conto che dal vivo, e poi da lì infatti poi imparai ad andare a teatro a vedere gli sketch dal vivo, i comici dal vivo, e questo devo dire grazie a Drive-In alla fine, perché infatti ultimamente almeno, sono andato a vedere Crozza, giusto? Sono andato a vedere Crozza, sì, ultimamente sì, sono andato con la moglie a vedere Crozza, però lì è un po' diverso, perché vedere delinquenti tremato, Vito Catozzi è ritornato, più crudele, più spietato. Ho fatto un corso di ancora adesso per corrispondenza con la scuola Radio Elettra. Adesso le arrabbiate, non ci metto il peperoncino, i carboni accesi ci metto, porco il mondo. tu che eri di tanti, chiedimi a me se sono spietato. No! Vabbè, questo dura quasi 5 minuti. Sì, questo trova è l'ultimo che ha fatto ridere anche a me, devo dire. Potresti pizzi, se non sei particolarmente pigro, mettere questi spezzoni tutti insieme alla fine, così. Lo farò. Lo farò nella versione podcast, metterò tutti i pezzi alla fine, in effetti, hai ragione. Bella idea, bravo. Vedi che sei. E poi si vede come. Anche questa cosa comunque trash richiede intelligenza, cioè noi abbiamo visto l'artista, voglio dire Faletti, che è riuscito alla fine praticamente in tutto quello in cui si è cimentato. Vabbè, nella musica probabilmente non era il massimo della cosa, però era interessante, comunque, cioè, nel senso, comunque c'aveva almeno qualcosa da dire, l'aveva, insomma, diciamo così, insomma. Poi poteva anche non piacere, no? Nel senso, però ecco, poi pure come romanziere, alla fine è un personaggio che si è espresso in tante situazioni e poi dopo no. Sì, era un livello superiore secondo me su tanti aspetti, però comunque devo dire che ammetto che questo era un personaggio che mi fa ridere ancora adesso. Fa ridere pure adesso. E allora? Vero, ma perché secondo me c'aveva lui. Ricordiamo che poi Faletti è il sosia di Peter Gabriel. Sì, è vero. È vero, o il contrario, tantissimo. Magari anche. Vabbè, è venuto prima Peter Gabriel, quindi fai. Per popolarità, per età non lo so. Adesso controlliamo. Non ci voglia. Essendo io uno studente calabrese di famiglia benestante, iscritto regolarmente al quinto anno fuori corso all'università. Questo non mi faceva ridere per niente, per esempio. Cioè. Io devo dirti la verità, allora non ridevo, ma dopo che sono stato alla Bocconi per lavoro, adesso mi farebbe molto ridere. No, all'epoca lo bypassavo proprio, lo saltavo, cambiavo canale. Sì, no, questo non mi faceva ridere proprio per niente, a me non lo capivo, forse anche, magari, cioè, perché ci può anche stare, insomma. Però vedete, faceva ridere, perché comunque anche questo poi alla fine il grande successo di questi personaggi era comunque il tormentone, no? Sì, tra l'altro i tormentoni sono stati fondamentali. Sì. Quelli di greggio, no, soprattutto. È lui o non è lui? Certo che è lui. Esatto. Sì. Quando presentava il quadro del tuo mondo scroppo, esatto, grande, sì. Grande. Quello, praticamente lo trovavi in tutte le pizzerie dopo. Cioè. Sì, lo trovi ancora oggi nelle pizzerie. Alcuni resistono ancora oggi. Certo, ce ne sono tantissimi. E poi i personaggi, abbiamo parlato dei personaggi creati all'interno. Benvenuti all'asta tosta, oggetti tosti, ecco, per tutti i gusti. Attenzione però, perché questa sera voglio proporvi alcune idee regalo prenatalizie. Ma cosa dico prenatalizie? Senti, voce c'è. E direi subito di venire al lotto numero uno. Signori, sto per presentarvi il personal computer di Mike Bongiorno. Eccolo qua. Voi potete vedere questo personal computer che è dotato di 40 palline di memoria, ma soprattutto vi prego di notare la splendida stampante. Eccola qui. Chi acquista il personal computer di Mike Bongiorno, questa sera faremo un'offerta tostissima. Vedi che faccia ridere. Ma cosa dico tostissima? Tosta. Già c'era la stampante che si era incantata. Oh, a questo punto che offerta è? Scusa Alex, no, qualcuno stava parlando, io perché sto andando a rota adesso, quindi mi vengono in mente le cose. E più sta ridendo da solo. No, stavo dicendo che ho detto che faceva ridere, no? Prima cosa, seconda, comunque una cosa che non abbiamo detto, gli autori, ci sono stati anche tanti autori che poi sono diventati famosi dopo, si sono formati dentro Drive-In, quelli che scrivevano questi testi che poi venivano recitati da greggio, eccetera, dentro è nata praticamente la Jalapas Band come autori, ma anche Gino Michele, esatto, bravissimo, esatto, anche LK, tutta gente che poi è diventata molto famosa dopo, ma che si è fatta le ossa scrivendo le battute a Drive-In, quindi non è che proprio era così tutto da buttare, insomma, questa trasmissione, ecco. Una cosa che non abbiamo detto sono i personaggi, Alex, tu te li ricorderai sicuramente tutti. Allora, me li ricordo perché Wikipedia mi ha stampato meravigliosamente un foglietto. Allora, Ezio Greggio faceva il banditore della statosta che abbiamo appena ascoltato, poi il critica trutto, Mister Tarlacò con l'accento sulla Q, poi faceva gli spettaculè spettaculè con il tormentone che ha cuccato la Cuccarini, il professor Zichi Chirichi, eccetera eccetera eccetera. Poi D'Angelo invece faceva il Tenerone, che a me non è mai piaciuto, dovete dire. Però il Tenerone ha avuto un successo incredibile. Io mi sarei vergognato a fare il Tenerone, veramente. Una cosa che non sa quasi nessuno, cioè che si poco ricordata, che il Tenerone è stato il personaggio di un videogioco per il Sinclair ZX Spectrum fatto in Italia e venduto in Inghilterra, che si chiamava Pippo, che appunto era il verso del Tenerone. Pippo, Pippo, Pippo, Pippo. È programmato tu questo videogioco? Pippo. No, l'ha programmato per assurdo. L'ha recensito lui, proprio. Un bergamasco. No. Però è uscito per la è stato uno dei pochi giochi italiani usciti per la Mastertronic, quindi poi pubblicato anche in Inghilterra. Scusate, è partita da una cosa che non c'entra niente. Vabbè, e comunque il protagonista di questo videogioco era il Tenerone. Ma giusto per dirvi che comunque il personaggio è di stretto successo. Poi c'era la contessa Marina Lante delle Povere, che veniva la parodia dell'altra VIP. Raffaella Carrà, che veniva anche lei intervistata da Roberto Gervaso. Piero D'Angelo e poi il signor Armando, quello che magnificava la bravura del cocker Aspie Duncan, che non so se vi ricordate, Aspie Duncan non era il nome del cane, ma inizialmente era la keyword da dare al cane, perché sì, faceva qualcosa, poi non faceva niente. Comando, sì, esatto, comando. Il comando solo nella seconda stagione. Piero D'Angelo, mi ricordo che era la parodia di Quark e c'era sì. Piero Angelo, c'era D'Angelo, faceva Piero D'Angelo e quando incrociava le gambe diceva ai, perché si schiacciava sì. Le palle, e poi diceva Quirk, Quark e Quark, la trasmissione. Esatto, quante ne sai. Vabbè, poi facevano Pippo Baudo e Casia Catariciarelli, Sandra Milo, eccetera eccetera eccetera, diversi politici dell'epoca. Di Faletti abbiamo appena sentito Vito Catozzo con il figlio Oronzo Adriano Celentano Catozzo, che veramente era geniale l'idea di chiamarlo così, il figlio, un po' come 20 anni dopo Biascica ha chiamato il figlio Francesco Totti col nome e cognome, quello di Boris. Sì, sì. Ah, oh Simone, parliamo di roba tua. No, a me quando parli di Francesco Totti è come un buco nero praticamente, cioè nel senso non esiste. Vabbè, sì. E poi c'era ovviamente il testimone di Bagnacavallo, come ci diceva Claudio, il cabarettista mascherato, parodia di un coso di un probabile rivoluzionario travestito da Zorro, Suor Daliso delle piccole madri addolorate del beato albergo del viandante del pellegrino. Sì, sì, sì. E poi Poldo, inserviente del circo Frollo Frollo Frollo e Schwarzenegger. Per cui, ma io sto cercando nonsense. Sto cercando Aspie Duncan, ma veramente non si trova, è veramente incredibile sta cosa. Cioè, poi Pistarino faceva sempre se stesso, solo che cambiava il suo ruolo. Braschi, che faceva sempre se stesso, cioè prima il paninaro, poi dopo diventava un soldato, cioè come il buon Roberto Tomaiolo, che avrebbe da nonnista l'avrebbe ucciso malamente e anche giustamente per certi versi. Lo stesso dicasi Bastano in realtà andrebbe preso un po' più come considerazione di quello che era lo spirito dell'epoca, cioè lo yuppismo, arrivisti, arrivanti, una cosa che arrivava dall'America e che noi abbiamo assorbito bellamente, soprattutto nelle parti ancora più becere. E secondo me, senza andare avanti a raccontare di questo, io vorrei fare un piccolo passaggio, perché mi sono studiato anche la parte della critica, che nel corso degli anni ha rivalutato Drive-In, dicendo che appunto Resta del Buono ha detto la trasmissione di satira più libera. Gassman disse è rimasto influenzato così tanto che dovete cambiare i ritmi nel teatro. Aldo Grasso disse: non è il manifesto di tutti i mali possibili della TV commerciale, piuttosto l'esplosività di quegli anni uscita dalla grigiore ministeriale della Rai e dagli anni di piombo. Effettivamente bisogna ricordare che gli anni 70 sono stati anni pesantissimi a tutti i livelli, soprattutto dal punto di vista della comunicazione, c'era veramente la pesantezza. E gli anni 90, gli anni 80, anche assorbendo il reganismo degli Stati Uniti, fondamentalmente sono stati un decennio di liberi tutti, non c'è più nessun problema, abbiamo stravinto, non c'è, tutto quanto andrà bene, quando che poi appunto abbiamo scoperto che l'avremmo pagati a posteriori. Antonio Ricci dice: siamo stati additati come ispiratori degli anni 80, mentre noi ne eravamo lo specchio, la critica feroce, tra satira politica presa in giro della Milano da bere. Siamo stati una trasmissione profetica, ora abbiamo le prove documentate. Ora io se devo essere sincero, voglio fare un po' di analisi, perché è troppo facile riportare delle cose che sono state scritte e dette da altri, però vorrei che concludessimo questa puntata invece con una riflessione su quello che poi è stato il decennio degli anni 80, ma soprattutto il decennio successivo, con questa cosa. Drevin era la presa in giro della Milano da bere? No, secondo me Drevin era lo specchio della Milano da bere, cioè lo yuppie bocconiano come il paninaro, ma così come tutti gli altri essenzialmente sono stati una sorta di, e anche la struttura narrativa di questa trasmissione, sono stati una sorta di apripista a un modo nuovo di fare televisione, di conseguenza un modo nuovo di fare comunicazione, di conseguenza un nuovo modo di fare comunicazione politica. Questo veramente mi sembra esagerato di mettere nelle mani di un singolo individuo, cioè Antonio Ricci, tanto potere. Ma non è neanche così troppo sbagliato. Adesso Roberto mi prenderà a schiaffoni moralmente parlando, e sono anche ben contento di essere qui per la dialettica. Per essere preso a schiaffoni da Roberto, non è che mo Roberto è il messia, che quello che dice lui va bene, insomma. Beh, però allora devo essere sincero, io quando ascolto il suo podcast, che spero ritorni ASAP, di storia, devo dire che mi piace l'analisi, mi piace questa cosa qua, per cui cioè, nel senso cala, era meglio che non lo dicevi. Scherzo. No, invece sono d'accordo. Infatti, tra l'altro, mi scrivono Roberto, vogliono sapere quando torni, per esempio. Poi gli rispondo, non ti preoccupare. No, perché tu hai già risposto, però poi non mantieni. No, lo faremo. Allora, di analisi ne sono possibili tantissime, e può esserci più di un'analisi convincente, tra l'altro, per cui non è che nessuno è il messia, io men che meno. Io sono d'accordo con, ti stupirò, sono d'accordo con la tua analisi, nel senso che secondo me Drive-In è stato lo specchio dei tempi, sicuramente, altrimenti non avrebbe avuto il successo che ha avuto. È stato lo specchio dei tempi, ironico, con queste prese in giro. E io analizzerei anche quello che era il paese in generale, perché è vero che venivamo dagli anni 70, che sono stati anni grigi e pesanti. Io ero piccolo, però mi ricordo comunque questa cosa. Però sono stati anche gli anni in cui, dal punto di vista della televisione, dello spettacolo, l'Italia si è, come posso dire, non voglio dire unificata, però questo messaggio è stato più largo. Si è modernizzata, nel bene o nel male, poi ognuno di noi potrà dire se si è modernizzata nel senso giusto o nel senso sbagliato. E per me questo era stato, e in quella trasmissione noi abbiamo visto comunque un modello, che di nuovo non voglio giudicare, dire se fosse un modello positivo o negativo, però era un modello giovane e moderno, che non per caso quindi comunque in gran parte proveniva dalla Fininvest, da Milano e da quegli ambienti. E di nuovo è giusto dire probabilmente che è un modello leggero, che è un modello anche un po' perverso in alcune cose per quello che poi è accaduto, però non me la sento di sparare sul messaggero, perché poi alla fine cioè l'uso che si fa di queste innovazioni dipende poi da chi lo fa. Io quindi, tutto sommato, il mio giudizio su Ricci, su Drive-In, su queste cose rimane positivo, nel senso che ha svecchiato un paese incrostato. L'Italia è un paese molto particolare, adesso non è questa la trasmissione, sennò già siamo troppo seri per questa sera. L'Italia è stato un paese incrostato, è stato un paese bloccato per molti motivi anche storici che non trattiamo adesso, e è un paese particolare. Se ospitiamo il Vaticano in Italia non è che è una cosa a caso, e quindi secondo me è stato comunque una cosa molto, molto utile per svecchiare queste cose. Questo è il mio punto di vista. Poi certo potremmo criticare quello che è accaduto negli anni 90 e più avanti, con le aberrazioni anche che probabilmente queste cose hanno portato, ma per me rimane il seme positivo, insomma. Questa è la mia opinione. Qua taccio la mia parte seria, perché è troppo tardi, non è questa la trasmissione adatta. Ma guarda, okay, ti dirò la mia analisi e la mia critica, finisco poi dopo ti lascio la parola a Simone. Vai. In realtà io sono a ripensarci, devo essere veramente, sono ammirato da quello che è stato Drive-In e dalla genialità della cosa. È il fatto che dopo è diventato una sorta di pigiamo ancora di più l'acceleratore solo in quella direzione, la direzione del trash, perché il Drive-In inizialmente non lo era trash. Cioè anche le ragazze inizialmente ce n'erano di meno, poi sempre di più, sempre più culi, sempre più bocce, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè Quando... c'era la ballerina bionda la prima cosa, quella che era anche brava tra l'altro, se mi sfugge il nome. Sì, ma non riesco a collegare, cioè ho un mezzo neurone che si è risvegliato, purtroppo era meno trash anche da quel punto di vista. Esatto, sì, purtroppo l'unico neurone di quegli anni è stato risvegliato dallo scrondo, per cui non è più a cagare per questa cosa. Scusate lo scrondo, no, ma ne parleremo dello scrondo. Io sono d'accordo, ripeto, è stata una cosa innovativa, è stata una cosa grande, cioè quello che è venuto dopo, l'eredità, i paperissima, striscia la notizia, scherzi a parte, questa roba qui, che sono sempre al filo del cattivo gusto, per certi versi per me sono di cattivo gusto e sono anche impoverimento per certi versi. Sì, beh, però questa è veramente la mia opinione. No, poi Drive-In era secondo me chiaramente ancora su un livello diverso, ma anche dal punto di vista pure produttivo, probabilmente organizzativo. Comunque prendo un attimo spunto e poi dopo lascio la parola a Carlo e a Davide magari anche per la loro analisi, perché giustamente Claudio a un certo punto ci fa un'osservazione in chat. Allora, probabilmente Drive-In era lo specchio del bisogno dei tempi o del bisogno del cambiamento e del disimpegno, più che dello specchio dei tempi in sé, cioè nel senso era più questa necessità di raccontare, di fare insomma un discorso più disimpegnato, appunto, più atto al svincolarsi dalla cosa più impegnata, più seria. E questa cosa mi ha fatto venire in mente, secondo me, uno dei pezzi più clamorosi di Boris, che comunque secondo me in qualche maniera è rappresentativo, e anche se non volendo farlo parla comunque anche di Drive-In. E ce la sentiamo un attimo, scusate, perché secondo me merita di essere ascoltata sta cosa, se non fosse per la pubblicità di YouTube di merda che chiaramente ecco qua. Allora aspettiamo un secondo, se ci riesco. Dai, più di così non le possiamo far vedere le bocce. Ma non parlo di Karen, parlo di Occhi del Cuore. Cioè funziona, funzionare funziona, ma rischi di non convincerli. Vedi René, in rete considerano Occhi del Cuore acqua passata. Senza sapere esattamente cosa vogliono, blaterano sempre di futuro. E Occhi del Cuore è il passato. Cioè? Renato, svegliati! Serve un qualche cazzo di futuro! No, guarda, ci sono già cascato nel futuro, Non mi fido del futuro. Ma non il futuro di Medical Dimension, che è una gran cazzata. Io parlo della locura, René. La locura. La pazzia, che cazzo, René? La cerveza, la tradizione. O merda, come la chiami tu? Ma con una bella spruzzata di pazzia. Il peggior conservatorismo che però si tinge di simpatia, di colore, di paillette. In una parola, platinette. Perché platinette, hai capito? Ci assolve da tutti i nostri mali, da tutte le nostre malefatte. Sono cattolico, ma sono giovane e vitale. Perché mi divertono le minchiate il sabato sera. È vero? Vabbè, insomma, questa era un po', cioè, la locura. Ma chi è che russa? Stava nel filmato o ci sei qualcuno? Nel filmato, perché lui è alle 3 di notte. Ah, ok, lì, sì, gli altri due sceneggiatori, okay, che dormono. In realtà più che questa parte di Boris 3 è la parte in cui lui va a Milano per fare la regia di un programma di sketch comici, che in realtà più che la parodia di Drive-In e l'eredità con i vari Colorado Caffè, che a me non ha mai fatto piacere ridere, o questo tipo di comicità che è basata solo ed esclusivamente sul tormentone, che a un certo punto, arrivata a una certa età, dici vabbè, le ho già viste queste cose e cambi canale. Io per esempio non vedo Zelig da 10 anni e non me ne frega un cazzo. Vabbè, infatti. Comunque, Carlo e poi Davide. Beh, io, come ho detto, quando Drive-In uscì e ci fu soprattutto le prime edizioni, mi ricordo tutto e mi ricordo ancora, come ho detto prima, dei pezzi ancora a memoria e mi ricordo il successo che ha avuto. Dopo, sia la parte finale di Drive-In sia quella che è stata nominata fino adesso, cioè l'eredità di Drive-In, tutto il resto io non l'ho più visto, proprio mai, ma neanche Striscia la Notizia, neanche Paperissima, neanche tutte quelle trasmissioni lì. Io è come se avessi smesso di vedere la televisione dopo, praticamente. E invece mi ricordo trasmissioni successive comiche invece sulla Rai. Mi ricordo quelle di Croda, i fratelli, come che si chiamavano? Ah, Cinico TV. I gemelli Ruggeri, la TV delle ragazze. Cioè, per assurdo, però un altro crescendo, tipo di, mi spostai completamente su un altro tipo di comicità. Completamente diversa, e quindi tutta la, diciamo, la, il seguito, cioè la parte di eredità di Drive-In, quella che viene chiamata eredità di Drive-In, in realtà io poi non l'ho più vista né seguita né apprezzata, quindi non lo so, non so cosa dirti. Io dico l'esperienza personale, poi non mi sono mai soffermato sullo spiegarmi il perché, il per come di queste cose, però devo dire che ho trovato tante persone che hanno fatto, amici che hanno fatto lo stesso identico percorso, quindi si ricordano quei primi anni da piccoli che guardavano Drive-In e poi dopo si sono spostati su un altro tipo di comicità, se vuoi completamente diverso, non lo so, però sicuramente meno trash. Non l'eredità di trash o non trash, su questo non te lo so dire, perché io molte cose che ho sempre considerato trash, anche la comicità demenziale eccetera, mi è sempre piaciuta, però quindi non faccio discorso da trash o non trash, devo dire semplicemente che non è quella che viene considerata l'eredità di Drive-In, ecco. Di sicuro non mi sono spostato a seguire i programmi come Paperissima, come, vabbè, perché poi Zelig, ho visto le prime edizioni, ma poi se uno poi cresce e quindi cresce la propria sensibilità a secondo della propria impronta, comunque cerca di seguire un percorso che perché chiaramente tra Drive-In e la TV delle ragazze c'è proprio un universo in mezzo, ma non al di là della scelta qualitativa, che per me chiaramente era più verso la TV delle ragazze piuttosto che Drive-In, ma, e questo un'altra persona potrebbe dire benissimo il contrario, ma proprio perché oggettivamente erano comunque diversi come tipo di tipologia di televisione. E io te lo dico, sai che io non sono mai stato uno che ha seguito le cose perché c'era una dietrologia politica, non per quello, l'ho fatto perché prima mi piaceva quello e poi mi piaceva quell'altro, quindi non so cosa dirti come mai da quello mi sono spostato verso quell'altro tipo di comicità. I Broncovitz mi piacevano tantissimo, tutta la parte della loro comicità eccetera, quindi io quando ero piccolo ho visto Drive-In, seguivo Drive-In, mi piaceva ridere, Francesco Salvi eccetera, e poi mi ha fatto ridere quelle altre cose, quindi in maniera semplice così. Insomma, tu sai che fra 10-15 anni tornerai a ridere per le stronzate, tipo la gente che scorreggia e quelli che cadono. Io lo faccio anche, io faccio anche adesso. La gente che scorreggia mi fa ridere ancora adesso. Sì, okay, ottimo. Io se tu vuoi eliminarmi proprio fisicamente, vuoi che io muoia, non fai prima a mandarmi un rutto dei 3 minuti piuttosto che spararmi. Cioè, penso che io se sento un rutto dei 3 minuti impazzisco proprio, muoio, mi finisce proprio il fiato dalle risate e muoio. Quindi, tant'è che c'è una meravigliosa ultima puntata di Multimania che facevamo con Luca Casciola, dove in puntata conoscemmo Ruth Mysterio e lui ci aveva fatto sentire Ruth Mysterio che cantava. Io a un certo punto non ci vedevo più, cioè nel senso, talmente credevo, io dico spegni tutto perché mi vedo solo una luce al centro dello sguardo, un infarto, mi stavo a sentire male, cioè veramente. Io, a me i Ruth mi fanno ridere, ragazzi, io lo so che è becerù, cioè Rutto Sound, la manifestazione. Sì, esatto. Fanno tutti gli anni. Ma poi lui è un professionista di e vince sempre lui. No, ma cioè, canta Bohemian Rhapsody con i Ruth. Esatto, ma cioè, la cosa incredibile, io ho visto il canale YouTube. Cioè, mo, al di là del fatto che lui sicuramente ha questa predisposizione, ma lì c'è una tecnica dietro, raga. Cioè, perché uno che fa un rutto di un minuto e mezzo, cioè, c'è un lavoro dietro, capisci? È allenamento. Appunto. No, più predisposizione credo, non so se si possa avere allenamento per una cosa del genere. No, sì, però il talento va coltivato. No, cioè sicuramente la predisposizione, ma no, allora è tutto un lavoro di diaframma, è come il canto, dopo che tu c'hai una tecnica, dopo lui ha sviluppato e ha allenato questa tecnica, perché non c'è spiegazione, no, se no ce ne sarebbero di più di persone che fanno una cosa del genere. Insomma, io c'avevo mio cugino che ci parlava Chirutti, però cioè dopo 20 come secondi. Come la canzone di Elio. Come la canzone di Elio. Esatto, mi ha detto in coro. Esatto. Mio cugino. Mio cugino. No, ma lui lo faceva per davvero, però. Il problema è che, capito, magari una frase, ciao, come stai, già va a finire Rutto, capito? Cioè, quindi, insomma, in linea di massima, veramente Rutto Mistilio, grande personaggio, che non so come ci siamo finiti a parlare, però ecco, i Rutti e Scuregge funzionano ancora, raga. Funzioneranno sempre, cioè, da Alvaro Vitali a, insomma, magari a, che ne so, magari un grandissimo artista pop di quelli ultra riconosciuti che un giorno farà una mostra dei quadri che scureggiano e la gente andrà lì a dire, oh, grande genio, veramente grande arte, significato profondo, e invece sono Rutti e Scuregge. Rutti e Scuregge funzionano sempre, raga. C'è cazzo da fare. Cioè, pensate se oggi faceva la quarta trasmissione. Esatto. esatto. Beh, domani sera c'è il Runtime by Night, dalle 23 in poi potremo fare Rutti e Scuregge tutta la sera, insomma, non si sa mai, Va buono, ragazzi. Alex, c'hai altro da inserire all'interno di questo picco? Oh, c'era Davide. Scusa. Ma io, scusa. Allora, stai calmo. No, non sono mica agitato. No, non ce l'ho con te, ce l'ho con il professore lì. No, dicevo, l'unica cosa che posso dire è che due cose. Uno, sicuramente che dopo Drive-In, io non so quanti di voi abbiano, Carlo ha già detto che si ricorda tutto, si ricorda parecchie cose, molti di noi, io soprattutto, ho rimosso parecchio di tutto quello che ho visto, anche perché l'ho visto in maniera non diretta, come dicevo, era un passatempo, mi entrava dall'orecchio e poi pian piano è uscito, magari sono rimasti i tormentoni, e sicuramente mi ha lasciato il discorso che mi ha fatto abbandonare fondamentalmente la Rai. Drive-In e qualche altra trasmissione mi hanno fatto migrare il mio, che poi non è un bene o male, probabilmente è più male che un bene forse, però sostanzialmente mi ha fatto conoscere la TV privata e da lì sono rimasto. Per me i canali TV erano il 4, il 5, il 6, l'1, il 2, il 3 non esistevano più, e l'1, il 2, il 3 sono diventati proprio, cioè non c'era proprio niente, ma proprio il deserto, si andava a vedere cosa c'era su 1, 2, 3, se no neanche lo andavo a vedere cosa c'era su 1, 2, 3. I miei canali erano 4, 5, tipicamente il 6 era il canale sul quale stavo, e questo era sicuramente una cosa che Drive-In ha aiutato ha portato la nostra generazione ad avere questo imprinting, secondo me, quello di migrare dalle prime tre reti e passare alle seconde tre reti. L'altra cosa invece, rivedendo oggi Drive-In e quindi molti degli sketch, neanche oggi li ho capiti, soprattutto quando erano sfondo politico, perché di politica ero completamente proprio a zero totale, cioè si parla di un personaggio politico, non so neanche chi sia quasi, per cui quando le battute finivano con dei nomi di personaggi e di robe, io non ridevo perché non potevo conoscere, non sapevo il perché, e da lì ho capito perché forse per molti di queste battute, di questi sketch che ho visto all'epoca, non mi dicevano nulla, perché non mi dicevano nulla allora e non me lo dicono nemmeno ora, perché quella parte di politica non l'ho mai seguita, e quindi il personaggio tal dei tali, Spadolini, piuttosto che quei nomi che si sentivano a quell'epoca, li conoscevo di faccia. Spadolini, perché Spadolini poi? Ho visto uno sketch di cui si parlava di battute di Spadolini, lo conosco ma tu lo sai che cosa avresti dovuto fare all'epoca, quello che facevano tanti, non sapevi, non capivi, ridevi lo stesso, cioè almeno ti mostravi intelligente di fronte ai più, capito? Quindi vedi, l'ha capito la battuta, solo. Ero da solo, dalle navi, capito? Cioè, intelligente, Spadolini, preferivo allenarmi a Scoregge. Vabbè, quello sempre. Perché da solo viene meglio, sempre, intimamente si funziona meglio l'allenamento. Comunque, niente, in realtà ho compreso magari in parte perché certe cose non mi facevano ridere, altre, vabbè, rivedendole oggi sono invecchiate male. Come invece Faletti, in quasi tutte le cose che ha fatto, rimane ancora, come dire, funzionerebbe ancora quasi. E Faletti è uno di quelli che era milanese, non so di dove fosse Faletti, però era del nord. Torino. Però comunque i suoi forti personaggi erano imitazioni di calabresi, non so di dove era Vito Catozzo. Beh, capirai, a Torino l'hanno vissuta anche Torino, esatto. Vabbè, invece è una cosa che noi ricorderemo volentieri per sempre, insomma, fino a che la vita ci assisterà, è le ventole del computer di Davide Gatti, che è una cosa così radiofonica che insomma, ci rende onore alla trasmissione quando eravamo futuro, perché giustamente... Ma il computer che ho non ha ventole, quale ventole sei? Ci sono delle ventole da qualche parte. Non sono le mie, sono a zero. Dai, è Davide, sono il Davide. Io non le ho proprio. Non ce l'ha più le ventole. Sono le tue ventole, secondo me, Pizzi. Gli hanno levato le ventole al computer di Davide Gatti. Sì, nel Mac Mini M1 non c'è la ventola. O se c'è, è ferma. Comunque, vabbè, lasciamo stare. Sarà struscia il pigiama sul microfono, non lo so. Sono in pigiama, io vi ammetto. Bello. Io fra poco devo portare fuori il cane. Infatti. Vabbè, dai. Mi chiede di te, Gatti. Ah, il cane chiede dei gatti. Il cane chiede dei gatti. Sono qua, ciao. Miau. Vabbè, possiamo chiudere la trasmissione? Ah sì. Oppure dacci qualche novità, qualche news, far ascoltare, qualche informazione. Fare ascoltare alle persone un cane che saluta un gatto tramite Skype, sa, deve essere assolutamente interessante. E con questa bellissima sound, what's the background and the music in the time, che ovviamente è un sottofondo musicale generico di disco anni 80, ragazzi, benvenuti a Radio Dimensione Suono. Questo è Aldo dei 2742 del 5290. Non so che stavo dicendo, va bene. Niente, ragazzi, allora domani mattina ci rivediamo domani mattina dalle 7 alle 8 con Disordinati Informati, con Michela, che ovviamente sostituirà il nostro amico Leo Varjon, come dice la nostra speaker dell'intelligenza artificiale, e che purtroppo è migliorata ultimamente. È migliorata, però sempre Leo Varjon dice, non so perché, proprio una cosa che non Varjon non gli piace. O Vargeon. Intanto è Vargeon. È Vargeon, vabbè, ma noi ci accontenteremo anche di Vargeon, è proprio Varjon che non c'entra niente. Comunque, e quindi questo è quanto. E invece domani sera, vi ricordo, alle ore 23, Runtime by Night, torniamo tranquilli e gagliardi, mentre che sabato mattina alle 8:30 alle 9:30 sempre io e Michela con Disordinati Informati. Invece, per quanto riguarda Alexei Raccuglinoc, abbiamo Tecnopills tutti i lunedì mattina dalle 6, il podcast, quindi andate su Spreaker o sui vostri aggregatori, cercate Tecnopills e scaricatevi tutte le ultime puntate. Una volta a settimana esce con le sue elucubrazioni e riflessioni su quello che è il mondo della tecnologia e di lui che programma cose, che è sempre più interessante. Esatto, una trasmissione che parla dei cazzi suoi, che è assolutamente interessante. C'hai altre cose? Ah, e poi il vino lo porto io, che tra poco uscirà, giusto? Allora, il vino lo porto io e fra 2 o 3 giorni esce la prossima puntata, e fra prima della fine dell'anno l'ultima puntata della stagione, ma ho un annuncio da farvi, non dovrei dirlo ad alta voce, ma dalla prossima stagione abbiamo gli sponsor. La Madonna! E che cazzo di sponsor! Bello, sono contento per voi, assolutamente. Sì, bravo, poi vi racconterò bene la cosa. Sto vedendo fuori delle notizie di bomba, per cui sono molto molto contento. Bello, bello. E infine vi annuncio che prima della fine dell'anno farò una puntata di Samba Radio in video, dedicata alle sigle dei telefilm, dove faccio vedere sia la sigla con l'immagine, poi farò sentire la canzone vera e propria tutto insieme, per cui voglio farla anche in video. Vaffanculo così. Ma sì, dai, intanto inizierà con lui che dice porca puttana perché non funziona. Sicuro. Ok, e invece salutiamo. Perché di solito qua, prima delle dirette con Apple, il porca puttana sarebbe ideale. In realtà ti vado molto più in basso nella scala dei valori. Sì, nella, sì, io ho sentito cristonare con allegria. Dico, ah, ma c'è Alex in live. Sente, porca puttana, perché non funziona? Porca puttana. È bellissimo. Stupato di noci. Però tutto sommato sempre meglio di Walter Sbano che lascia il buio prima di iniziare la trasmissione, che è una cosa che io non concepisco proprio, però so fatto strano io. Comunque ringrazio anche Carlo Sant'Agostino, ricordiamo che ci sono in programmazione 2 puntate di archeologia informatica per quanto riguarda il podcast, e ovviamente ci sono video di prossima uscita sul canale YouTube di archeologia informatica. Andate su YouTube, cercate archeologia informatica, iscrivetevi, attivate la campanella, iscrivetevi, condividete, fate tutto sempre quello. Se l'ex presidente di Atari non ci termina prima, però ma no, ma non ci termina nessuno, noi non ce ne frega, non c'è un traduttore automatico che dice puoi venire qua e pupparcelo alla grande, esatto. No, ma ci ha pensato Maiuolo che traduce in tempo reale, siamo vicini a quel punto. Sì, ma poi deve essere un po' psycho sto tizio, mo io non voglio, insomma, non diciamo chi è perché sennò poi ci denuncia, perché e l'ha appena detto, c'ha un algoritmo che traduce in tempo reale tutto ciò che dice Runtime Radio da adesso in poi. Salutiamo anche ovviamente Davide Gatti e il suo Survival Hacking, che non è più soltanto un podcast, no? Abbiamo detto a inizio trasmissione, è anche un bellissimo canale YouTube che sta spopolando. Io sono contento di questo perché insomma per me è sempre motivo di fierezza aver sostenuto e spinto un progetto alla nascita, e quindi anche lì cercate Survival Hacking su YouTube, attivate la campanella dopo esservi iscritti, naturalmente mettete like ai video, condivideteli, aiutate insomma questi canali a crescere, perché più crescono e più tutti quanti i bambini in Africa moriranno meno di fame, ecco, diciamo che questo è ma soprattutto Davide Gatti, ricordi degli amici quando diventi ricco, e quello io lo dico sempre. Su quello sì. Beh, a parte ricordarsi, vi ricordo anche che in questo momento l'ultimo episodio è l'episodio con me e Alex, per cui ci siamo noi. C'è un episodio con Alex, ho capito. Vabbè. Sì. Non l'hai visto? No. Insomma, io, Davide e il mio cane. Ah, bello. Perché non aveva capito la battuta di prima lui. Vedi, non l'avevo capito. Ecco perché non l'avevo. Era come video. Tu che non capivi le battute su Spadolini, è la stessa cosa, insomma, non sapevi e non potevi. Esatto. E ringrazio e saluto anche Roberto Tomaiuolo. Grazie a voi ragazzi, buonasera. Vi ricordo che Roberto Tomaiuolo è l'autore della prima bellissima stagione di Lenda Cartago, che trovate comunque su... Perché ridi, scusa? No, non era una critica, stava facendo il suo lavoro, dai. Scusa, perché ridete? Non capisco qual è la cosa che fate di Lenda Cartago. A me non... No, sembrava che non si sa quando ci sarà la seconda stagione. Vabbè, intanto c'è la prima stagione, andate a ascoltare. Il piacere e l'attesa. Esatto, bravo, esatto. Quella è la cosa... Perché fino a che siete curiosi, aspettate che esce. Insomma, tra l'altro domani mattina esce la nuova puntata di Data Nightmare. Insomma, si sta andando giusto ultimamente. Il caro Walter Vannini, che insomma è incazzato con tutto il mondo come sempre. Vabbè, quindi cercate tutti quanti i podcast, ma soprattutto andate su Spreaker.com, cercate Runtime e trovate tutti quanti i nostri podcast che sono lì a disposizione da sempre e per sempre. Perché ricordate che il podcast resta e sempre il nostro core. Poi se fate anche un giro su www.runtimeradio.it, andate sul pulsante anch'io, potete fare una donazione, una tantum su PayPal, oppure fare una donazione ricorrente su Patreon, anche perché i costi sono aumentati, noi siamo esosi, siamo qui, noi aggiungiamo servizi a quello che facciamo, quindi... Voi mangiate un sacco di sushi voi, cacchio, e poi... costa un sacco di soldi. Esatto, il fottuto sushi, esatto. Quindi grazie da Alex, grazie di essere venuto e ci vediamo magari un'altra volta, insomma in un'altra occasione. Comincio a pensare a qualcos'altro. Bravo. Ma purtroppo ogni volta che vi ascolto mi vengono in mente 3 o 4 puntate, poi penso no, poi devi studiare, no, con calma. Perché però sì, effettivamente. Ma perché gli anni studiare? 80 sono chi stati forti fare? Per me. Scusa. Però sono venuto qua, voglio essere un po' preparato, cioè non è che vengo qua a dirvi che vi insegno a fare la vostra trasmissione di cui io ho inventato anche il nome, ricordatevelo. Bravo. Sì. Che ci dimentichiamo sempre di dire, anch'io me lo dimentico sempre, che a parte i nomi, a parte tutto, quasi sempre tutte le grafiche, i titoli, i loghi, le cose. No, io l'ho sempre detto, assets grafici sempre by Alex Raccuglia, quindi non è... Ma sì, ma ragazzi, qui scherzando, no, adesso a parte tutto, insomma, mi ha fatto veramente tanto piacere essere qui e soprattutto essere qua a parlare proprio con voi quattro di questo argomento, perché credo che ognuno di voi mi ha anche dato una sua visione della cosa che mi ha completato, per cui a valle di questo, cioè, esco da questa puntata come se fossi un ascoltatore più arricchito, per cui grazie davvero. Che non è una leccata di culo. Che belle parole. A valle di questo e a valle dell'anima. In eterno. Esatto, adesso la farà lui. Concludiamo con un bel rutto e una scorreggia. Esatto, adesso la farà Alex in eterno da solo la trasmissione. Comunque, grazie Alex, grazie Carlo, grazie Davide, grazie Roberto e a tutti quanti. Ci vediamo la prossima volta. Ciao a tutti. Buonanotte. Ciao, buonanotte. Ciao. settimana vi presenteremo un mestiere pericolosissimo, l'idraulico. Questo mestiere pieno non è pericolosissimo, è difficilissimo. Perché è difficilissimo? È difficilissimo. È pericolosissimo. È difficilissimo. Perché? Provate a trovare un idraulico, non dica banalità. È difficilissimo trovare l'idraulico. Non dica banalità. Allora, lei è l'idraulico più importante del mondo. Sì. Lei è Genodeffo Sofronio Sofonismo Artemio, l'idraulico più nobile d'Italia. Nobile. C'ho anche il blasone. Sì. Che al posto delle palle c'ho i rubinetti e due guarnizioni. Io invece sono Madame Gaspard. Sei? Sono una bella donna che aspetta l'idraulico. Forza, entri in casa, entri in casa. Entro in casa. Entri in casa, suoni la porta e arrivi. Pollicione! Pollicione, è un indice che. E il mio campanello funziona così. Pollicione! Pollicione. Forza, apri. Oh, Madame Gaspard! Buongiorno, senta, guardi! Sono l'idraulico! Senta, guardi! Mi dica che bella donna che è, che bella donna che è! Come faccio a dirti che bella donna? Dica, oh, che bella donna! Oh, che bella donna! Dica! Poi c'è molto idraulico qui! Dai! Da capo, dai! Ma che da capo? Forza, venga! Mignolin! Oh, ma da che pezzo di donna che è, Madame! Oh, tenga! Sono l'idraulico! Tenga a posto le parole, perché io vi conosco voi idraulici, tutti maniaci sessuali, vecchio porco! Ma se non ho ancora tirato fuori il tubo, non ho ancora fatto sentire. Niente. Mi deve mettere a posto, mi deve mettere a posto il mio lavandino. Ah, va bene, poi, basta dirlo. E allora, lo metto a posto. Basta dirlo. Oh, ecco. Quello è il bidet. Mi metta a posto i rubinetti, mi metta a posto. Mi metta a posto i rubinetti, per cortesia. No, non questi, i rubinetti del lavandino. Magari una guarnizione. No, il lavandino è ingorgato. È ingorgato. Lo metta a posto, saranno i capelli? Saranno i capelli? Sì, eccoli lì, guarda. Fuori, via, tutti e quattro di lì. Dai, chi, tutte venite fuori via chi? Di lì. Tutti e quattro, chi? Fuori di lì. Sono le team, sono tutti lì dentro. No, sento un po'. Anche te, con la pentola dentro il tubo. Vieni commissario, via. Per cortesia, lei che idraulico è? Non vede che c'è. Non ci sfida, c'è un idraulico, giuro, basta la parola, c'è un idraulico. Stia a sentire, non vede che c'è. Perde il lavandino. Colpa e mia. Se c'è la goccia? È Jim. Adesso io ho un lavandino fatto di gorgonzola. Da come puzza lei direi. Per cortesia, no, si sdrai, si sdrai. Mi sdraio? Si sdrai e mi ripari il lavandino. Oh! Vabbè, se lo dice lei, io mi sdraio e le riparo il lavandino. Ah, così lei mi guarda le gambe. E che, ma Madame Gaspard, guarda no. Che turzoli che si ritrova. No, lei deve dire che belle gambe che ha, signore. Ma come faccio? I idraulici fanno così, forza. Che belle gambe che ha, signore. Uè, brutto porco, come si permette? Uè, ma se sei stato tu a me dire che c'hai delle belle gambe. Mi tocchicci ma non le tocchicci, gambe. Mi deve tocchicciare. Questo qui che cos'è, l'idraulico è un film? Cicciolina, aggiustami il tubo. Ma che cicciolina, aggiustami il tubo? E in quel momento si... Ti ha rotto il boiler. Dio, mio marito. Sta arrivando mio marito. Tenga giù le mani. Mio marito. Sono un idraulico. Mio marito è una bestia. È un incontro fra Schwarzenegger e ti spiezzo. Una, è uno che fa truncia così. Va in Rocky. Panata. Scappi. Scusa, mi metto nell'armadio. Non c'è l'armadio in bagno. Mi metto sotto il letto. In bagno sotto il letto. Alzo la vasca. Esca dalla finestra. Esco dalla finestra. È idraulico. Aprite. Come no, la finestra si apre così. Forza. Vai in su, si è rotolo anche il vetro. Sì, salta fuori. E l'idraulico uscì sul cornicione del palazzo. E fuori con... No, fermo, che c'è il cornicione. Ah. Contro il cornicione, contro il palazzo. E il vento... Il vento che fischia. C'è anche il vento. Fischia. E i piccioni che... I piccioni. Chi piccioni? È contento. Il sogno di una vita. Stare sul cornicione. Il lavoro dell'idraulico come quello del veterinario. Uguale. Pericolosissimo. È bellissimo. Stare sul cornicione è stupendo. Stupendo. Bello stare sul cornicione. Un cornicione che sarà lungo... Sarà lungo un metro e mezzo. 25 centimetri. 25 centimetri. Però ce l'ha piccolo, che... Forza! Strisci, perché sta arrivando ti spiezzo che vuole uscire anche lui. E allora... No! Dio, qua c'era la curva del palazzo! È precipitato! Precipita! Si aggancia! No. Boom, e si è appeso al pezzo di sotto del palazzo! Senza accorgersi che era finito davanti alla finestra di una vecchietta! Che come lo disse... Ah, il maniaco! Ha mollato la presa! Precipita! Caschi! Fate sdeng! E dove cadde l'idraulico? Dove cadde l'idraulico? Cadde proprio su una lavatrice che degli addetti stavano portando la signora Gaspar al quinto piano. E la lavatrice si ruppe! Si è spappolata la lavatrice! Ci vuole e allora l'idraulico che non si era fatto niente ma gli giravano le guarnizioni. È tornato giù di corsa, ha suonato la signora Gaspar, pollicione, ha aperto la porta e ha detto oh signora Gaspar, aspetti un attimo, lei intanto chiami il mio collega che sta arrivando là. Lei aspetti un attimo. Sorpresa, mi ripara la mia lavastoviglie. Deve riparare la lavastoviglie. Non deve chiamare me. Ah no? No, deve chiamare, sa chi? L'idraulico liquido. La prossima volta, signora Gaspar. faccia sfolgorante la vetrina. Buongiorno, signor Bobo. Buongiorno. Piena di balocchi e profumi, entra con la mamma la bambina. Tra lo sfolgorio di quei lumi, domanda signora, Cipri e Colodiacopi. Mamma, mormora la bambina, mentre pieno di pianto agli occhi, per la tua piccolina, non compri mai balocchi. Mamma, tu compri soltanto profumi per te. Basta, basta, non esistono mamme così! Sei il babbo più cattivo del mondo! Ma come sono sensibili questi bambini? Tutta colpa tua. Ma cosa ti viene in mente di insegnargli queste canzoni decadenti, lacrimose e piagnucolose? Tremo l'idea di come dovranno affrontare da grandi questo mondo di merda. Cambia registro, Bobo. Viviamo in tempi duri. I giovani hanno bisogno di sicurezza. Sicurezza, un po' di cinismo e tanta grinta. Hai ragione, Modo. Sicurezza, cinismo e tanta grinta. E se poi mi diventano craxiani? Mamma! Si incazzerà, bambina! Taradon, taradon, taradon! Gianni Agnelli, libero in galera, Platini! Vieni, vieni qui! Ma tu stai correndo? Dove stai andando? Un appuntamento? No, perché? Allora ti conviene correre, se non lo trovi più nessuno! Chi ha ordinato un uovo? Chi ha ordinato? Hai ordinato un uovo? Hai ordinato... Quello lì ha ordinato un uovo! Allora ti metti a fuoco, mi metti a fuoco! Eccolo qua, questo è l'uovo! Ma io ho ordinato un pollo! Ho capito, ma se lo ammazzi lei una gallina che fa dell'uovo così? E Pasqua, pace, e Letizia, nei cuori! Natale con i tuoi, e Pasqua con quelli che ti prestano! Bel ragazzo, questo qui, ma sto scherzando! La Pasqua è una festa familiare! Io mi ricordo quando ero piccolo che il medico, quando sono nato io, invece di dare un colpetto a me, ha dato uno schiaffo a mia mamma! Stasera esci, non mi sto preoccupando, esci stasera? Allora esco io, per favore, perché non quella faccio. Mi ricordo quando sono nato, io mi ricordo in particolare che mia mamma era scappata verso Cuba, aveva dirottato un tram. Io la prima cosa che ho visto da piccolo è stato mobile bar. E la prima parola che ho detto da piccolo è stato... Povero! Fino all'età di 5 anni ero convinto di essere un chinotto, poi sono cresciuto e sono diventato un cocktail! Dio mio, questo spray funziona! Prendete qualcosa, ragazze? Sì, prendete! Oh, sì, sì, sì, viva la Pasqua! Buonasera, signora Bob. Buonasera, Giuliana. Mamma, mamma! Io sono successa con tone bruttissima di una mamma cattiva che compra solo profumi per lei. E niente per la sua bambina. Che c'è da guardare così? Un classico della canzone italiana, Balocchi e profumi di E. A. Mario. L'ho fatta così senza pensarci, non lo analizziamo. Ma lo sai che non esistono mamme così? È quello che le ho detto anch'io, non esistono mamme così! Ah, non esistono mamme così? Non approfondiamo, lasciamo correre. Cosa vorresti insinuare? Dai, dai, che ci siamo capiti. No, non ci siamo capiti per nulla. Di chiaramente quello che pensi. Ah, insisti? Hai il coraggio di insistere? Dici che non esistono mamme così? Allora di che cosa c'è in questo sacchetto? Che cosa hai comprato? Fai vedere che cosa hai comprato. Questo sacchetto? Sì, in questo sacchetto. Vuoi vedere? Sì, voglio Va vedere. Va bene, guarda. Un paio di calzini per te. Un paio di mutande sempre per te, una tuta di ginnastica per Ilaria e un pupo per Michele. Grazie, mamma. Molotov, non ci crederai, ma da 10 anni questa è la prima volta che da questo sacchetto non escono boccette, boccettini di profumi e cosmetici. Quando si dice la sfiga. Amici, aprite gli occhi, sono finite le tenebre, la cometa di Halley è a un passo. Abbiamo vissuto un avvenimento storico e non ce ne siamo accorti. Abbiamo visto la cometa di Halley a 500 chilometri da noi, si vedevano anche i brufoli. Io l'ho vista in televisione come l'avete vista voi, era tutto chiaro, no? Come le previsioni del tempo, non si capiva niente, uguale proprio, no? La forma però era precisa, un'enorme frittatona. I colori erano quelli ma non erano quelli. La cosa che ci hanno detto i giornali c'è chi riesce a vedere la cometa di Halley ad occhio nudo sarà influenzato dalla fortuna. Io ho passato 5 notti al freddo in finestra guardando in alto, ma non sono rimasto influenzato dalla fortuna, sono rimasto influenzato e basta, dici. Ma la cometa di Halley non è soltanto un fenomeno astronomico, è qualcosa che decide anche sui nostri destini. Questo l'ha detto Nostradamus, il grande iettatore, che poi l'hanno fatto passare per preveggente. Cioè, è lei che deciderà per voi. E infatti è la cometa di Halley che provoca il ribasso del petrolio, è lei che sceglie il ministro Franca Falcucci, è lei che fa vincere Ramazzotti a Sanremo. Per il passaggio della cometa al mondo succedono tante stranezze, nessuno più fa il suo mestiere, c'è una grande confusione rivoluzione, Benetton lotta per la pace nel mondo, Valentino conquista l'America, Crisi e Missoni si occupano di opera lirica, Armani vuole entrare nel pentapartito, un uomo politico, un intellettuale per avere successo adesso deve imparare a fare la maglia, Moravia non deve firmare i libri, deve firmare i golfini, anche il vicepresidente della RAI è stato scelto dalla cometa di Halley e l'ha fatto senza sentire Bubbico, la fiscalizzazione, gli oneri sociali, la formazione della nazionale di calcio, tutto la cometa di Halley, c'è gente che pensa che sono loro a decidere, non è vero, è la cometa di Halley e fa tutto da sola, al suo fianco non ha nemmeno un Claudio Martelli, Spadolini la guarda terrorizzata come se fosse Reagan, Nicolazzi la guarda con disgusto perché spappolata com'è gli ricorda Pietro Longo, neanche Andreotti riesce a fregarla, l'unico che la guarda con disinteresse è Visentini perché Buontempone com'è pensa tanto peggio di così, un pensionato la guardata e ha detto, dice, questo è niente a confronto della coda che ci fanno fare per prendere la pensione, vi do una notizia in anteprima, la cometa di Halley ha firmato in esclusiva per la RAI, fanno un grande serial, una puntata ogni 70 anni. Ma guardate, guardate che ressa fuori al Palatrussardi di Milano, quante persone addirittura sono rimaste fuori, chiedo anche scusa, ma questo sta a significare che ci volete bene, tutti ci volete bene, tranne uno, Pippo Baudo, che dopo 28 anni di televisione notte e giorno, proprio adesso che è arrivato a Canale 5 si è accorto che aveva esagerato, accidenti che riflessi però, ma non è giusto perché Pippo Baudo in tutti questi anni alla TV ha dato, anche preso. Pippo Baudo, non puoi lasciarci così, tu non vuoi apparire sui teleschermi rischiando di mandare i telespettatori in crisi di astinenza, e allora io mi rivolgo a te, immagine di Pippo Baudo, che sei molto più umana di lui, hai anche più spessore, Pippo ci mancherai, e noi per non farti un torto, Pippo, abbiamo voluto esagerare in questa puntata, amici, guardate! Che meraviglia, che meraviglia! Pippe! Baudo naturalmente, guardate, proprio identica a lui, con gli stessi capelli finti, anche più belle di lui, addirittura migliori come direttore artistico, perché troveranno sicuramente qualcuno che gli va dietro. Ebbene amici, adesso ripetete con me: Pippo è vivo e lotta insieme a noi! Pippo è vivo e lotta insieme a noi! Che succede? Ma chi ha frenato? Ah, Berlusconi, beh, meno male. A momenti faceva un altro investimento sbagliato. Prudenza, prudenza! Ma che costruirmi e costituirmi? Sei venuto a costituirti? Quando hai scippato la vecchia con la collana? Quando hai scippato la vecchia americana? Ma che scippai? Non l'ho scippata nessuna! No, ma stavi le guardie! Che c'è in questa cosa? No, è che nella firma americana ci sta sempre questa parte dell'interrogatorio. Ma stai silenzio, dico io! Ma state pazzi! Vabbè, voleva partecipare! Sentite, basta, mi sono scocciato, mo me ne vado! Vedo dai carabinieri! Vieni qua! Dai, guarda, vieni qua! I carabinieri, ha detto! La concorrenza! La concorrenza! Cagazzo, non fallo così! Non ma mamma ne manca proprio! Vieni qua! Non lo volevo dire, non lo volevo dire! Ma qua abbiamo milioni di clienti che vanno e vengono e che ti danno della nuca! Che se davano bene tu dici sta cosa fuori posto! Tu sta bene! Capito? Senti, oh. io sono... Aspetta un attimo! Dai, forza! Troviamo la pezza a coloro, dici pure! Però ricordati, no! Ricordati! O dici la verità! O dici la verità! Ma state pazzi! Vabbè, volevo partecipare! E dove l'avete persa? Con chi l'avete persa? Quando l'avete persa? A che ora l'avete persa? Ma non lo so, l'ho persa! Basta, l'ho persa! Persa la carta d'identità! Adesso, ma dov'è? Eccolo qua! Pronto? Sì, sono pronto! Ho capito, tu sei pronto, ma pure io sono pronto! Tu sei pronto perché sei pronto, io sono pronto perché ho risposto. Ma come si fa un centralinistico a fare il cognome pronto? Come si fa? Ma perché? Quello è il portafoglio mio. È il portafoglio mio. Oh, meno male, mi sento risollevato. Oh, guardate, a me quando mi capitano queste cose, sì, io mi abbatto. Non possedete una macchina, un'auto? No, ce l'ho la macchina. Beh, chi ha guida questa macchina, scusate? La macchina la guida mia moglie. Tu fai guidare la macchina a tua moglie? Sentite, sarà come dite voi, ma quando guida la macchina mia moglie, a me mi piace. Vabbè, ma qua bisogna trovare una soluzione, vediamo un po'. Ecco, ma vi do un consiglio, aspettate, state calmo. Sentite, sentite, ascoltate il brigadiere Coppola è come un padre, quando è fatto a terra. Portafoglio mio. Vi do il consiglio, voi fate una cosa. Poi scrivete a una bella scuola guida pratica, no? Sì. Fate tutti i documenti, fra 3 mesi vi rilasciano la patente. Quando voi avete la patente, venite qua, presentate la patente e vi ritirate la vostra carta di identità. E se sono bocciato? Sì, sicuramente ho boccio, ne ha chiesto. Se siete bocciato... No, ma voi che volete da noi? Tranquilli, tranquilli! So sempre io, Gran Gallo, l'unico paninaro professionista troppo giusto! Novità? Un panotto bello fresco, pronto per l'esame di ammissione al nostro giro. Porta dentro il tamarrino ino, che gli faccio un bel check-up. Eccolo capo, è missile. Uè, testa di casual! Ma tu di lavoro cosa fai? Il manichino in una boutique! Facciamo subito la prova orale. Sereno. Sì, però forse poi si guasta perché... Spruzzo d'un tamaro meteorologico! Sereno, è il saluto! Sereno. Va bene. E adesso facci vedere la tua grinta stermination e facci sentire la frase più tremenda, la più cattiva che conosci. Un insulto very schioppetation. Pezzo d'asino. Pezzo d'asino! Troppo scarso! Vediamo se ti rifai con la prova sfittizia. La vedi quella? Dimostra di essere un cucador troppo giusto. Vai a piovrare con le due belle mongolfiere. Uè, signor Inzia, la posso invitare per una pizza all'astra grande stasera? Astra grande stasera? Stasera! Te la sparo subito io la pizza! Apri binocoli, missile, e impara come si fa. Uè, sfettenza al rapescio. Ma lo sai che macchia più un casino? Ma lo sai che se ti cucco tra il chiaro e lo scuro ti rivolto come un guanto? Ti sparo in bocca un bacio Mulinex che ti smeriglio la lingua e ti cancello tutte le papille gustative. Uè, Gran Gallo, vieni a vedere, hanno fatto un attentato ai pan di Porta Genova. Essendo io uno studente calabrese di famiglia benestante, iscritto regolarmente al quinto anno fuori corso all'università Docco di Milano. Delinquenti tremato, Vito Catozzi ritornato, più crudele, più spietato. Ho fatto un corso di spietatura per corrispondenza con la scuola radioelettra. Adesso le penne all'arrabbiato non ci metto il peperoncino, i carboni accesi ci metto, porco il mondo. Tu che ridi tanto, chiedimi a me se sono spietato. No, tu chiedimi a me se sono spietato. Sei spietato? Non parlo, agisco. Prendi il naso, faccio venire che Pinocchio sembra che si è fatto la plastica, porco il mondo. Che l'altro giorno un teppistello di strapazzo, che non so dove sarà, un paesino strapazzo qua vicino a Milano, mi ha guardato e mi fa: Catozzo, mi ha fatto un bernacchio, mi ha fatto, ci ho preso la lingua, l'ho fatto venire lungo come una cravatta, porco il mondo, ho cominciato a darci dei schiaffoni sopra, ci ho fatto venire la lingua metà viola e metà arancione, ci ho detto, e adesso va alla fa al Palio di Siena le bernacchie, che sembri un sbandieratore, porco il mondo, ce lo faccio vedere io chi ha Vito Catozzo, ce lo faccio vedere. Sai come mi chiamano i colleghi miei? Lo sai come mi chiamano i colleghi miei? Mi chiamano l'elefante, perché sono grosso e c'ho tanta memoria. Per forza, se non ci avessi tanta memoria, come faccio a fare la pipì con sta panza? Sono 20 anni che non vedo più niente, che non vedo. Perché io sono macchio. Io sono maschio, macchio. Una donna che mi lava la biancheria a me prima si deve prendere la pillola. Io ho gli occhiali scuri, me li ho fatti fare da control, perché una donna solo a guardare sono pericoloso, porco il mondo. A me l'unica donna che mi fa girare la circonvallazione del sangue è mia moglie derelitta, una femmina appetitosa, 1,40 m, 140 kg, sembra una scatoletta di simmentale enorme, bella, pelosa, io tutte le volte che la vedo non resisto, la prendo per le bassette, la devo baciare, la devo baciare. Che la settimana scorsa l'ho presa e l'ho portata a fare la settimana bianca a Curmaius, porco mio. Ci ho comprato una tuta di sci verde pistacchio, i scarponi da sci gialli, gli sci ce l'ho preso in spalla larga, perché con quelli normali stretti come li metta a fonda quelli. Ti dico, è arrivata vicino i schilif, come si è messo il piattello dei schilif, lei si è bloccata, i schilif, è partita la baracchetta con i piloni e tutto, è arrivato tutto in cima, abbiamo dovuto portarli in cima alla montagna con un elicottero militare. Quando è arrivata in cima è partita come il vento, sembrava Alberto Tromba. È venuta giù velocissima, lei anche avvantaggiata, perché pure in piedi, quella già sembra la posizione a uomo. È entrato dentro il bosco, i pini cadevano, sembrava in Shanghai. Tum, tum, tum, tum, tum, si vedeva anche cadere da fuori. Non ha mica fatto l'errore che mi è andato sulla pista del trampolino. L'ho vista passare che diceva vita! È caduta, ha fatto un buco che per andarla a trovare ci hanno dovuto mandare San Bernardo con l'elmetto da ammiratore, che sono stato pure preoccupato. E questa donna, questa campionessa delle nevi ha dato i natali a mio figlio Oronzo. Oronzo, Adriano, Celendano, Catozzo, che nella neve o nel pantano il re sembra Adriano Mondocano, che quello sì che è uno che mi scia, tu lo vedessi scia, quello è nato per sciare. C'ha su una tutina rosa, i scarponi da gara, quelli con i tacchi a spillo, ma ti vedo, lo vedi sciare, quello è nato veloce, lo vedi come sculetto quello, come sculetto quello è nato. Come siamo arrivati in montagna, tanti ci piace lo sport, ha trovato una caserma di militari, oh, sembra scia con loro, sembra scia con loro, se non lo portavamo via pure a dormire ci andavi in caserma quello, hai capito, tanto ci piace lo sport, che se io saprei che mio figlio mi diventerebbe un orecchione, guarda, vivo ce lo faccio mangiare le racchette di gli sci, ce le faccio mangiare. Signor Catozzo, venga, venga, c'è un ladro che sta rubando la macchina di supercar. Qua la macchina di supercar? Quella con tutti i giocarelli, con i computer, sì, che sembra un flipper. Esattamente. Ma che si difende da sola quella, porca il mondo, che ha speso i milioni. Piuttosto andiamo a vedere la mia 124, se è ancora parcheggiata bene. Ti faccio fare un giro su una macchina che non l'hai visto mai in vita.